Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, bentornati, domenica 19 marzo, sono le ore 14:32 primi e una manciata di secondi. Come sempre cominciamo con le voci che hanno caratterizzato la nostra vita in qualche modo, visto che si intitola Voice Anatomy, ormai lo sapete. Proprio stanotte se n'è andata una delle voci più belle della musica americana dei primi anni del Novecento, perché a 91 anni ci ha salutato. Non vi dico niente, vi dico solo tanto Chuck Berry. Ma questo era il grande Chuck Berry. Ma c'è un'altra persona che non soltanto con la voce, anche con un corpo importante, oggi festeggia degli anni importanti, io non li voglio dire, perché lui da quando non ha i capelli non si capisce. Claudio Bisio, pronto? Gianni Bigode, ciao Pino. Ciao Claudino, grazie, so che ti disturbo in un giorno di festa, ma 30 secondi perché mi sembrava giusto condividere con chi glacialmente ha vissuto con me 15 anni di quell'epopea in mezzo ai ghiacciai. E con grande simpatia, sei una persona veramente speciale, ma non lo dico io, tanto lo sai. Non voglio fare le trasmissioni quelle ciao di piaggeria, no, assoluta. Però ho 50 anni oggi, è un peccato. Bisio, non sembra che c'hai quelli che dici di avere, comunque. Comunque lo puoi dire, come maschietto, poi con le luci giuste, il modo giusto, tu poi sei più o meno operato in tutti... No, sono nato quando ci sono stati i trattati di Roma, dove sì. È nata l'Europa. Esatto, tu sei stato uno, che ha uno dei firmatari. Ho fatto... Vai, ti lascio immediatamente, però ci tenevo assolutamente a farti gli auguri, Claudio, perché ci teneva anche tutto il popolo che si raccoglie intorno alla radio, alla televisione. Grazie davvero, Claudio. Grazie a tutti voi. A te, un abbraccio a tua moglie. Ti aspetto, Sì, fra due. È qui, ti fa dei cenni, lei parla con te accenni, non ti parla che tu non capisci. Esatto. Salutala tantissimo, buon compleanno amico mio. Grazie. Di cuore. Ciao Pino, ciao Claudio, buone vacanze, ciao. Grazie. Eccolo, sono molto contento. Claudio è veramente un carissimo collega, ma lo sapete perché gli volete bene e lo dimostrate in tutti i modi, e lui dimostra la sua grande professionalità a 360 gradi. Ma oggi è anche il 19 marzo, per cui San Giuseppe. Io non voglio fare delle autocitazioni, ma mi chiamo Giuseppe. Citati. Mi cito. Mi cito. E allora sono anche papà. E allora dedico a tutti i Giuseppe e a tutti i papà questa bellissima canzone di Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Lo so, interrompere questa canzone è proprio come fare un coitus interruptus. Deltuoso. Anche perché la voce che sentite al mio fianco è già sopraggiunta di un grandissimo attore, doppiatore. Beh, sì. Sei venuto in ritardo. Sono in ritardo perché tu mi hai fatto venire in ritardo. In ritardo, è vero, è vero. Eravamo quasi finiti tutti. Sì. In extreme, sono addirittura stato prima... A Radio Cigliano, Radio Web Cigliano, esatto, ti ha battuto sul tempo come ospite. Finalmente, però finalmente sei arrivato tu. E allora, tu sei papà? Sì. Ma non ti chiami Giuseppe? Quattro volte papà. Sì. Stamattina è venuto... Ah, pensavo che stamattina pure... No, stamattina. È venuto Nelson, 5 anni, l'unico maschio della Nelson. Famiglia. Si chiama Nelson come Why? Mio padre. Papà si chiamava Nelson. Sì. Mia moglie Annunzia ha voluto fare quella che in Irpina si chiama Sepponta, cioè dare al primogenito il nome del nonno paterno. E certo, così si faceva. Per Giuseppe io mi chiamavo perché... I miei nonni non so perché avessero questa attrazione per un nome di origine irlandese, fra l'altro, perché Nelson vuol dire figlio di Neil, no? No, non lo si sapevo. Chiamava così. Ah, Nelson, certo. Nelson. Si chiama Nelson. Stamattina Nelson è venuto e mi ha regalato un portachiavi fatto con... un tappo di una bottiglia, sì, certo, che ha fatto a scuola, e certo, mi ha recitato la poesia che finiva con un abbraccio, e lui mi ha abbracciato. Ma che bella cosa, queste sono cose belle della vita, sono queste, beh, direi, non c'è altro. Anche perché le grandi che ormai hanno quasi 27, quasi 18 anni, che c'è qualche problema? Oggi la festa del papà, essendo poi a Roma, quello succede. Non vi ho detto nome e cognome perché mi voglio giocare un momento di uno dei tantissimi film da protagonista che ha doppiato Stefano. Sto cercando di capire quale il mio amico Mauro Meconi, autore insieme alla bravissima Alessia Navarro di questa trasmissione, che saluto ovviamente dall'altra parte del vetro, come saluto Rachele, nostra capo redattrice di se stessa, e il grande Valerio, che perché è qui, è una redazione numerosa, folta. E Valerio, che sapete, lui è qui al posto di Alessandro solo quando la Roma gioca fuori casa, oppure stasera, visto che gioca stasera, lui è qui. Allora io mi gioco un Bastardi senza gloria. Ora, se si dovesse determinare quale attributo il popolo tedesco condivide con una bestia, sarebbe l'istinto astuto e predatore di un falco. Ma se si dovesse determinare quale attributi gli ebrei condividono con una bestia, sarebbero quelli del ratto. La propaganda del Führer e di Goebbels ha detto più o meno la stessa cosa, ma le nostre conclusioni differiscono nel fatto che io non considero il paragone un insulto. Consideriamo per un momento il mondo in cui un ratto vive. È un mondo molto ostile. Se un ratto dovesse intrufolarsi dalla porta di casa sua adesso, non lo accoglierebbe con ostilità? Immagino di sì. I ratti le hanno fatto qualcosa per creare l'animosità che sente nei loro confronti. Diffondono le malattie, mordono le persone. I ratti erano la causa della peste bubonica, ma è successo tempo fa. Io penso questo. Le malattie diffuse dai ratti possono essere diffuse anche dagli scoiattoli. È d'accordo? Io sì. Io sono d'accordo. Bravino questo, chi era? Stefano Benassi. Ma io non ero quello che... Tu eri quello. Ero l'altro, con l'accento francese. No, tu eri Christopher Waltz. Poi sei sempre tu Christopher Waltz. Quasi sempre, sì. Ultimamente sì. Ultimamente sì, incrociamo le dita. Io ho condiviso un Django dannata. Insomma... Per cui eravamo compari. Il film immediatamente successivo a Bastardi senza gloria, vero, sempre di Tarantino. E sempre con Christoph Waltz, uno dei protagonisti. Cioè, lui è riuscito fuori così, perché Tarantino va veramente a scavare. Beh, e trova tutto Tarantino, lui evidentemente. Assolutamente, perché già una volta come è ricominciato a vivere. Esatto. Però tu sei la voce dell'amore, secondo me. Dai. La voce dell'amore. Poi, in effetti, mi ha fatto notare una cosa. Questa trasmissione si chiama Voice Anatomy, che è tratta da un gioco di verso a Grey's Anatomy, certo, che tu non hai mai doppiato. No. Me ne sono guardato bene. Esatto. Io dico soltanto Meredith. E basta, e sei Patrick Dempsey. Tana. Sei tu. Quanti anni, quante stagioni? Ma, 13? Lui credo che ne abbia fatte 12. Sia uscito nel corso della dodicesima. Si è fatto defungere. Si può dire, se non è spoiler. No. Ha detto alla regista, alla creatrice, muorimi. Muorimi. Insomma, non si sa perché. Muorimi non è male. Sì. No, tu sei veramente... Beh, in effetti è vero. Io devo chiamarlo come prima puntata di Voice Anatomy chiedendo... Scusa, il permesso di... Vabbè, strisciamo lì adesso, dai, chiedi perdono. Esatto, lo faccio così, tanto volentieri. Io ho tante domande da farti. Una. Quanti anni ho? No, ma lo so. No, non c'è scritto. Dove sei nato? Io sono nato nella provincia di Mantova, in Campania. Dai! Vabbè, quest'anno vado per 60, quest'anno sfondo il tetto. Sfondi? Sì. A 57? Sì. E vai, tu anche il grande Bizio 60, io vi raggiungo fra un paio d'anni. Lui c'ha qualche mese più di me, perché io li farò alla fine dell'anno, li farò il 26 dicembre. Però se riporta bene, questo è radio, non è televisione, però insomma, annuito, Valerio ha annuito. Non sapevo, ma che non si vede niente. No, qui non c'è, non mi ero fatto il colore, No, tesoro. Senti un po', tu hai fatto tantissime cose, perché hai fatto anche tantissimi sceneggiati di successo. Tu hai fatto La Piovra, Un Posto al Sole, Cento Vetri. La Piovra è stata in assoluto la primissima cosa che ha fatto davanti a una macchina da presa. Ma era quella quale? Di Florestano Mancini. La prima qui, Piovra? No, era forse la seconda. Facevo un carabiniere, un ufficiale. Quanti però, anni fa è La Prima Piovra? Ma io credo, la seconda Piovra, insomma, l'anno dopo. Io credo che lì si tratti di qualcosa come l'84, esatto, l'83, l'85, una roba del genere, 82 forse. Sì, e fermavo il commissario Cattani a un posto di blocco. Questo era. C'era un piccolo dialogo. Ah, c'era una scena, una posa. Ah, e poi Vabbè, però in assoluto la prima cosa che ho fatto. E poi perché... quella è una cosa veramente viste. Sì. L'hanno montata, poi non l'hanno tagliata. Non l'hanno scena. Sì. Ma tu hai cominciato, come hai cominciato? Parallelamente attore, doppiatore, teatro, no, televisione. No, io il doppiaggio ho provato molto più tardi. Io inizio a fare il mimo nel 1979 mentre frequento i corsi di ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma. No, vabbè, questo non lo sapevo materia io. Materia nella quale mi sono laureato nell'82, Cioè, tu mi sono fatto pure l'esame d'estate, ingegnere. Non voglio ovviamente ironizzare su una cosa del genere, perché però è bello, cioè noi non abbiamo mai tempo in sala di confrontarci su certe cose, perché il Massimo dice che ha fatto eccetera. Naturalmente i miei non furono contentissimi della scelta che stavo da facendo. Ingegnere nucleare. Nucleare, sì, ma era l'82, quindi poi nell'85 ci fu il referendum che vanno tolto tutto. Il nucleare, esatto. Io andavo a Montalto di Castro per finta. Perché per rimorchiare in quel periodo avevo visto degli amici i cortei di protesta. Facevo finta, mi fermavo prima che c'ho casa a Tarquinia. Per cui sul treno e ho visto una volta dei ragazzi che andavano: no, andiamo a combattere per levare questa cosa a Montalto di Castro. Montalto di Castro era fermato dopo Tarquinia. Ho visto delle ragazze che pendevano dalle loro labbra in quegli anni. Per cui dai viaggetti dopo che mi sono fatto Roma-Tarquinia, quando trovo un po' di ragazzi dico: dove stai andando? No, vado a Montalto a combattere un po' da qualunquista, devo dire la verità, un po' superficialmente qualunquista, ma mi ha portato, meno male che loro scendevano prima, mi informavo prima se scendevano a Civitavecchia. Beh, perché se scendevano dopo Tarquinia era finita per me. Per cui ingegnere nucleare. E come è nata questa passione, scusa? Ma non lo so, sai, gli amici dicevano: ah, sei teatrale, sei simpatico, sei divertente, fai qualcosa. Io non sapendo dove iniziare, non era facile. Iniziai con un corso di mimo, e il primo spettacolo, la prima compagnia alla quale approdai nel 1979-80, era una compagnia che faceva teatro ragazzi al Testaccio, al Teatro Clemson. Adesso c'è un CIA. Ma anch'io ho cominciato a Clemson con l'Allegra Brigata. Tu con l'Allegra Brigata nell'80. Qualche anno dopo, io qualche anno prima, una compagnia dove c'erano, dove recitavano Massimo Bopolizio. Esatto, che pure noi è stata fatta. Paolo Buglioni. Ma che bello, zio, che c'era bello. Stefano Antonucci. Sì. E altri che poi sono. Abbiamo condiviso gli stessi attori, lo stesso periodo. Ma agli inizi dell'Allegra Brigata ci siamo anche frequentati ci conosciamo da un po'. Ma che bella questa. E da lì ho detto: se mi do in un paio d'anni riesco a mantenermi con questo mestiere. Però cominciando con Mimmo mi fa ridere, cioè nel senso la voce non c'era. Accoglievo i bambini in sala e li portavo ad accomodarsi ai loro posti. Per cui sei fisicamente, insomma, uno guarda qua, cioè, è vero. Ma che figurino, beh. Esatto, si è alzato, non sapete che cosa vi state perdendo. Meno male che è soltanto radio. No, stai bene assolutamente. E poi comincia il doppiaggio? E poi no, il doppiaggio arrivo praticamente vero lo comincio nel 1990, quando Renato Izzo, dopo avermi visto a teatro, perché poi dai primi anni 80 fino al 93 ho fatto teatro, ha detto: perché non vieni a far parte dell'allora gruppo 30? E lui mi ha edificato, creato da zero. E come vedete si può cominciare anche non avendo, essendo figli d'altri. Certo, ho avuto una scuola io. Che c'erano i grandi lì, c'erano tutti. Allora c'era ancora il tempo di metterti sotto lì e imparare e studiare, insegnarti, imparare, apprendere. Oggi con i tempi di lavoro che ci sono oggi è quasi impossibile. Infatti molti ragazzi sono un po' segnati da questo, non riescono ad entrare, non riescono a seguire, e uno non riesce come direttore a darsi del tempo per ascoltare. Anche non è assolutamente così sempre, perché uno dà le possibilità, tu le hai date, le danno tanti altri, però è molto più difficile. Ma guarda, per darti un'idea poi dei tempi di lavorazione, così anche gli ascoltatori possono rendersi conto, quando nel 1982 venne doppiato Apocalypse Now con la direzione di Renato Izzo, ci misero 76 turni per fare quel film. Calcolare, sono 3 turni al giorno, per cui 76 turni. Oggi per fare un film grosso 30 turni? Magari. 30 turni, ma un film grosso, eccetera, eccetera. Io ho avuto l'onore di doppiare Martin Sheen in Apocalypse Now Redux, la versione con 45 minuti in più nel 2004. Abbiamo fatto 35 turni, doppiando 45 minuti in più. Ok, restate con noi, lo sapete, Voice Anatomy è appena cominciata. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Voice Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 14:47 e 33 secondi. Stefano Benassi, la voce non soltanto dell'amore. Io ho detto così perché insomma c'è Grey's Anatomy e io lo ringrazio di questo titolo. Io non sono una delle voci dell'amore, quelle proprio omologate. Sì, ma hai fatto delle cose sull'amore che io apprezzo tanto. Sei più ficaccione tu di voce. No, io ho pianto, e ho pianto su PS Love You, io ho pianto. Gli piace tanto. No, mi piace, non mi piace. Ogni volta che mi vede dice quanto mi piace. Avrei voluto doppiarlo io al posto quella tuo. Lì guarda, non te invidio perché l'hai doppiato, te te odio proprio perché l'avrei dovuto doppiare. Esatto, mi piace perché voglio piangere. Sì, assolutamente. Gli piace. No, da morire. E se non l'avete visto, guardato. Se avete un cuore PS Love You, guardatelo. Aspetta, cioè, diciamo chi sono gli attori. Gerard Butler. Lui e lei è... Lei è bellissima. Lei ha vinto due premi Oscar. Hilary Swank che ha vinto due grandissimi premi Oscar. Lei è meravigliosa. Insomma, due attori. No, ma tu hai fatto solo attoroni. Abbiamo esordito con Christoph Waltz, o Waltz, che visto che è tedesco, Waltz, di Bastardi senza gloria, è Django. Allora voglio mandargli tutti queste cose che ha scaricato l'amico Mauro Meconi, se no si arrabbia. Se non... E a questo punto scegli tu. Abbiamo parlato di PS Love You, però io voglio andare su un altro film da un titolo complicatissimo che in originale è The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption, che non fece una lira. Un testo di Stephen King, esatto. Sì, ma non fece una lira in America, se non che lo candidarono a tutti gli Oscar, e in Italia fortunatamente è uscito con un titolo apprezzato che è Le ali della libertà. Che anche quello, insomma, è un grandissimo film. Una vita fa, dove tu stiamo parlando del poco prima del 96, 94, 95. Vabbè, tu hai stracciato i tempi, ti sei preso la laurea in ingegneria nucleare, ti sei doppiato questi film meravigliosi. Sì. E in maniera anche mi bella. Mi sono cantati, mi sono suonati, mi sono doppiati. E noi ce l'ascoltiamo. Un momento delle ali della libertà, Tim Robbins, ovviamente Stefano Benassi su quel corpo. Prego. Mia moglie mi diceva sempre che ero un uomo difficile. Un libro chiuso. Si lamentava continuamente. Era bellissima. Dio quanto l'amavo. Solo che non riuscivo a dimostrarglielo. L'ho uccisa io, Red. Non ho premuto il grilletto, ma l'ho tenuta lontana. Ed è per questo che è morta per colpa mia. Per come sono io. Sì, ma non puoi considerarti un assassino. Un cattivo marito, forse. Puoi sentirti in colpa se vuoi, ma non hai premuto il grilletto. No, infatti. È stato un altro a ammazzarla. E sono finito io qui dentro. Questione di sfortuna. Già. La sfortuna vola nell'aria e ogni tanto piomba su qualcuno. È toccato a me quella volta. Mi trovavo lì e mi ha beccato. Insomma, film epocali, Stefano. Ma questo poi non so quante volte sia stato replicato. No, ma è bellissimo. Le ali della libertà, grandissimo film, grandissima interpretazione. Devo dire che continuo a urlarlo. Pensa anche che è stata l'ultima volta che ho doppiato Tim Robbins. Sì, succede che poi... Poi non l'ho più doppiato, se non un paio d'anni fa, in una serie da lui medesimo prodotta con Joe Black, o Jack Black. Che Jack si Black, chiamava The Brink, che era una serie... televisiva che faceva insomma la parodia della politica. Sì, ma cioè, certi personaggi fanno un po' ping pong, poi dipende se tornano nella stessa tuppa, poi facevi parte del gruppo 30, sì, come esatto, socio, magari all'epoca sì, esatto, arrivava magari un'altra società, altre società e altri. Però insomma io lo urlo sempre sia da questi microfoni quando facciamo il Gran Premio, è uno dei pochi ambienti sani dove se perdi un provino tu lo vinci un altro bravo. Questo è il mio tormentone, che è bello sapere che insomma stanno dei posti dove la meritocrazia paga. Ma proprio vedi, allora, vedi le unghie davanti al microfono, proprio si sente non hai reti di salvataggio. Non posso dire, perché... Stefano, ho conosciuto sta ragazza ieri, ma la fai lavorare? Non si può. Beh, sai, a teatro, al cinema, sei strafigo, sei bello, sei alto, hai gli occhi verdi, hai magari la voce un po' sai recitare, vabbè, ma dici quanto è bello. Esatto, bleffi così. Lì davanti al microfono il corpo. C'è occhi, non c'è gli occhi. Sei veramente azzurri. In caduta libera, se secondo esatto. Te. Quindi... Esatto, per cui allora abbiamo parlato di PS Love You, dai, lo sentiamo. Però c'è anche la musica, c'è la colonna sonora pure che fa. Io insomma, trovo. Oggi faccio venire veramente i denti cariati a qualcuno. Ti bacio, vuoi che ti bacio? No, amore, mi piace tanto, però non lo voglio. Vai. Non lo so che cosa ho detto. L'hai detto? Sai quello che hai detto. Non so quello che ho detto, ma non volevo dirlo comunque. E invece sì, volevi dire tutto quello che hai detto. Ma certe volte non voglio dire niente quando dico qualcosa. Qualcosa non è mai niente, è sempre qualcosa. La maggior parte delle cose che dico non è niente, è tanto per dire qualcosa. No, voi uomini dite che è tanto per dire qualcosa, solo per evitare di dire qualcosa. Ma sapete di dire qualcosa ogni volta che la dite. Diciamo che? Che cosa ho detto? Hai detto a mia madre che tu vorresti un figlio, ma che io non sono pronta. A mia madre! Potevi anche dire che sono lesbica. Beh, sono l'unico uomo che tu abbia avuto. Oh, sono stata con Timmy Harrison per 4 mesi prima di incontrarti. Non è diventato donna adesso? Ah! Hai detto a mia madre che io non voglio figli! Non è vero! Sì, io è vero. Non ho detto questo! Sì, che l'hai non detto! Non ho detto questo! Hai detto esattamente questo! Non ho detto questo. Che tu non sei pronta ad avere un bambino. Ho detto che vuoi aspettare. Il che vuol dire che adesso non lo voglio. Certo! Grazie! Aspetta un attimo, mi sono confuso. Posso avere l'opinione di un esperto, no, di un non arbitro? Non ti sei confuso, ti sei solo sbagliato. Holly non vuole avere un bambino. Noi avevamo un progetto, Jerry. Aspettare ad avere dei figli finché non potessimo comprarci una casa. Mettere parte dei nostri stipendi su un conto col 6,25% di interessi per 5 anni. Perché a mia madre non ha detto questo? Questo è l'inizio del film che c'ha un battibecco incredibile fra tutte e due. Se lo vedete, l'inizio è così. Litigano tutte e due, titoli di testa, lui muore di tumore al cervello. Sì, una cosa sembra. Da lì, dice, vabbè, adesso dove andranno a parare? E invece, ragazzi. Ragazzi, che si sogna veramente. Dice, è che mi avete fatto morire subito, ma esatto, non ci sto più. Invece ci sei sempre, no, in che modo, in che modo. Non lo dire, perché magari chi non si è visto il film, se lo vuole vedere. Ho imparato la parola spoiler quando ho capito che non è una macchina decappottabile, lo dico sempre. Non è la lettone dietro. No, esatto. Facciamo gli auguri pure al Pino il Segugio, sì, va bene, ovviamente. Che voce stupenda l'ospite, scusa, mi sono da poco collegato, Stefano Benassi. Stefano Benassi, sei perso un Christoph Waltz, sei perso un Patrick Dempsey, non te lo sei perso, ma, non abbiamo fatto ancora di sentire, ma se lo becca adesso. Abbiamo sentito un Gerard Butler di questo film straordinario. Ma senti, tu te l'aspettavi di bruciare così tante tappe e diventare così bravo? Lo sto Dio, no, sono un collega e te lo dico con tutto il cuore. Beh, devo dire che insomma che sono partito da una posizione privilegiata, essendo stato educato al mestiere da Renato Izzo all'epoca, certo, il quale non ci dimentichiamo che disse: garantisco io per lui, e finì a doppiare Dale Cooper in Twin Peaks. Ah, l'hai fatto 1900, tu, è vero. 1991 tutti, o 92, tutti se sei non fatto sbaglio. Twin Peaks, la serie meravigliosa, la prima, la madre di tutte, la madre diciamo del serismo moderno, si dice così, il serismo del serismo, cioè del serialismo, del serialismo moderno, neo serialismo. E quindi cioè tu immagina che scuola che ho avuto con lui. Sì, è vero, però c'è sempre bisogno di qualcuno che creda in te. Insomma. Io sono stato fortunato, ci ho messo un po' di talento mio, evidentemente, ma ero bravino anche a teatro, insomma. Sì, no, ma cosa che non ho voluto più fare da quando poi Isabella è entrata in età scolare, insomma. Questo fai male, questo si fa, magari farlo solo a Roma, ma non lasciarlo, come non dico lasciare il tuo corpo. Come dico sempre, io la sera voglio andare a casa. Vabbè, ma si può fare a teatro ogni tanto a Roma. Qualcuno dice sì, non è importanza, per favore non puntate sulla bellezza. No, è quello che dicevamo, non parliamo di bellezza, parliamo di grande professionalità. Poi uno diventa pure bello se è bravo. Cioè non è che se incontravi Al Pacino che non lo conoscevi, non è che te fermavi e oddio Al Pacino o Dustin Hoffman. L'Europa, poi sono stati quelli che hanno inaugurato la stagione del grande attore non bello per antonomasia là in America. Per antonomasia, ma per noi era bello. Per antonomasia, conosci di antonomasia? C'è avuto una storiella. Ci sentiamo fra pochissimo. Voi sanatovi, a tra poco con Stefano Benassi. Sanatomi. Eccoci signori, 15 in punto, Stefano Benassi al mio fianco con tutti i suoi grandissimi personaggi. Veramente ci vorrebbe qualcosa di più di un'oretta insieme a te, però torni. Sì, sì, non puoi dire di no. Sì, torno. No, perché ti ho chiamato tardi. Ma mi hai chiamato te, mi hai chiamato per ultimo. Allora, ma che per ultimo? Mi stai blandendo? Mancano 6 mesi alla fine del secondo anno. Tanto qui c'è un'emergenza elettronica qua che... Allora, c'è una curiosità. Ma è vero che un doppiatore prende solo 150 euro a turno? Manuele dice, magari, ma manco quelli ogni tanto. Ma non esiste una tariffa fissa per il turno? No, c'è un contratto sindacale nazionale. Sì, sì, il gettone di presenza, che sono 72 euro, allo stato attuale, lordo, parliamo sempre di lordo. Non siamo calciatori. E poi veniamo pagati a riga. Un film sono 2,5 euro a riga. 2,3 euro a riga. Quindi se fai un personaggio da 100 righe sono 230 euro più la presenza. Esatto, che magari non fai in notturno, fai in due. Questo è la cifra. Poi uno ovviamente può mettersi d'accordo più o meno se il film questi sono i minimi al di sotto dei quali non si dovrebbe, non si dovrebbe andare. Poi esatto, ahimè la deregulation nel mercato c'è sempre, insomma. E questo è vero. Mentre per le serie televisive 2 euro a riga. E i documentari? Scusa, visto ci sono? Io non lo so. I documentari vanno da 1 a 50 righe, da 51 a 100, 100, 120, 140, fino a un massimo di 280 per voce fuori campo, 450 righe. A turno? No. 450, se tu vai a fare... Lo New si riproduce accoppiandosi con la New essa. Esatto. Se tu fai quella, hai un tetto massimo di 450 righe e totalizzi 282 euro. Che miseria. Sono tante righe per solo 282 euro. Esatto, adesso me ne rendo conto perché quando sono andato a ritirare. Perché che ne so, se devi dire defibrillate con il defibrillatore. È una riga, ma. È una riga, ma. Ma quanto mi dai questa riga? Vallo a dire. Avete capito, insomma? Ma molta gente, c'è questo immaginario collettivo, questa fanta lavoro, il nostro lavoro che dico chissà, quel film ha incassato 20 milioni di euro, quanto ha guadagnato? Facciamo l'esempio, esatto. 20 milioni di euro costato il film, il doppiaggio del film sarà costato 30.000 euro? Esatto, forse 40-50. Quindi insomma, certo, 30.000 euro vanno divisi fra colui che ha fatto i dialoghi, adattamento, la direzione del doppiaggio, l'assistente di sala, esatto. Guadagniamo bene. Ma sì, non siamo ricchi. No, però devi stare in sala 10 ore al giorno, forse qualcosina in più. Sì, 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana sono 45 arriva ore. Perché arriva anche il film importante dove tu magari se sei conosciuto eccetera magari puoi chiedere qualcosa in più, esatto. Su un film Disney dove chiedono voce volto, ma è raro, insomma, sì, sono veramente momenti rari. Diciamo che poi i soldi sono sempre di meno, lo sappiamo, no? C'è la crisi dell'economia e quindi anche il nostro settore, pur avendo subito un allargamento perché sono arrivate tutte queste piattaforme, però chiaramente essendoci tanto lavoro e tanto materiale che va in onda si tende a volerlo pagare di meno il doppiaggio. Benissimo, qui parlano anche di autoironia eccetera eccetera, no, siamo d'accordo, il senso dell'umorismo è sapere prendersi in giro, quello è il segreto della vita. Come si dice a Roma, stiamo a fare doppiaggio, non stiamo a salvare vite, esatto, stiamo facendo dei film. Ascoltiamo un altro momento di una a questo punto Patrick Dempsey, noi ce l'ascoltiamo, il tuo Grey's Anatomy, ma qui ce l'ascoltiamo in Come d'Incanto, un film bellissimo. Come d'Incanto, un film Disney, molto... si parla di maggiorazione, no, un seguito. Si parla di un seguito, si rumoreggia seguito, rumored si dice. Sì, Rumored, esatto. E allora ascoltiamoci invece quello già fatto per Patrick Dempsey, stessa faccia, stesso corpo di Grey's Anatomy, stessa voce, quella di Stefano Benassi su Come d'Incanto. Ciao! Accomodati! Posso? Oh, buongiorno, Robert! Che pensiero gentile! Vi ringrazio! Oh, spero che tu abbia fatto sogni d'oro. Forse non sono ancora sveglio. Questa è una camera magica. Da dove arriva l'acqua? L'acqua arriva dai tubi. E i tubi dove la prendono? Non lo so da dove prendono l'acqua i tubi, sì. Nancy? Oh, salve! Chi è quella? Non è nessuno! Sono Giselle! Mi trovavo al castello per sposarmi e all'improvviso... È sposata? Non è sposata, non ancora, non ancora. Che significa non ancora? Nancy, si era persa, ho solo cercato di aiutarla. Fa fare che? A trovare la doccia? No. La doccia? La doccia è meravigliosa? Favore, non ne dubito, non basta così, grazie mille, ok, ecco. Nancy, calmati, per favore, parliamo. Parlare di che, Robert? Del fatto che io non ho mai dormito qui perché eravamo d'accordo che qui c'è Morgan e non sarebbe opportuno? E io pensavo, che fortuna, è un uomo sensibile, non avevo capito che era un problema di sovraffollamento. Beh, bellissimo anche questo film, beh, tu sei lui. No, io non sono lui, io doppio i due personaggi femminili. Ma io tu senti, sei. Da dove viene l'acqua dei tubi? Ma sei uguale. Non mi avevi riconosciuto. No, fanno anche in Grey's Anatomy fai lei tu. Tra l'altro mi sembra che loro siano lui. Ilaria Latini e Laura Lenghi. Laura Lenghi che l'abbiamo sentita anche prima su Hilary Swank in PSA Audio. Lei è strepitosa. Diciamo, perché citiamo delle illustri e bravissime è stata colleghe. Ospite, Laura, timidissima. Ma prima stata... di me? Prima di te. No, stai peggiorando la composizione. So che sei direttore e non mi chiamerai mai più. Cioè, stai affondando proprio. Pino, scusa, non ho capito bene il riferimento ai 15 anni trascorsi sui ghiacci insieme a Bisio. L'era glaciale, lui era... io ero... insomma... facendo io la tigre dai denti a sciabola e lui eccetera. Ci siamo incontrati una volta ogni 3 anni e mezzo con Claudio, per questo ho fatto riferimento ai ghiacciai. Complimenti a Stefano, eccetera eccetera. Sentiamoci un altro Stefano Benassi, perché Benassi ha fatto tante cose, ha anche fatto Bridget Jones, per esempio, un'altra saga. Jones, sì. Dove tu non sei Bridget Jones. Perché mi guardi, dici saga con questa faccia, no, così? No, non era un riferimento cambiando una vocale. Perché quando eravamo a metà del film eravamo a mezza saga. Mezza saga. Poi dopo siamo arrivati alla fine, l'abbiamo fatta. Tu hai continuato anche qui, hai fatto Colin Firth, ve lo state palleggiando, fratello. Niente, Luca Biagini. L'ultimo mi sono proposto perché c'era Patrick Dempsey. Nell'ultimo. E come fai? C'erano chi Colin Firth e Patrick Dempsey. E chi scegli quando è così? E niente, io andavo da una parte all'altra del cibo, cambiavo. Fai come ha detto una volta Amendola. Gioco forza, dovevo doppiare Colin Firth. No, avendolo doppiato nel primo, nel secondo. Ah, certo, è vero. In Bridget Jones c'erano tutti. In Bridget Jones era doppiato invece Giorgio Borghetti. Patrick Dempsey è l'ultimo Bridget Jones. Vabbè, t'ha rubato pure Patrick Dempsey. Lo dico bene, Bridget Jones. Bridget Jones. No, non lo dire a me, che io sono delle pronunce in inglese che fanno veramente ridere. Ce lo ascoltiamo questo Colin Firth in Bridget Jones, dove Bridget Jones, ovviamente, René Zellweger è la nostra grandissima Jupiter. E allora, prego. Senti, mi dispiace se sono stato... Cosa? Non penso affatto che tu sia un idiota. Oddio, è vero che c'è qualche cosa di ridicolo in te nei tuoi modi. Tua madre è piuttosto imbarazzante. E devo ammettere che sei veramente pessima quando ti capita di parlare in pubblico. E tutto quello che ti passa per la testa lo fai uscire dalla bocca senza tener tanto conto delle conseguenze. Certo, mi rendo conto che quando ti ho conosciuto al buffet di Tacchino al Curry di Capodanno sono stato imperdonabilmente scortese. Avevo addosso quel maglione con la renna sopra che mi aveva regalato mia madre il giorno prima. Ma il punto è... quello che cerco di dirti, in modo molto confuso, è che, in effetti, probabilmente, malgrado le apparenze, tu mi piaci. Ma non era riferito a me, ovviamente. Che cosa? Tu mi piaci. Ah sì? No. Ah, m'era sfuggito l'ultimo. No, perché all'ultimo sembrava tu mi piaci, sembrava che la tua voce, visto che sei ospite qui, caro Stefano Benassi, sembrava me l'avessi dedicato. Invece è arrivata Alessia Navarro con un paio di possibilità di letture, perché essendo oggi la festa del padre, c'è una poesia che insospettabilmente scrisse Roger Waters, grande, uno dei leader, insieme a Gilmour dei Pink Floyd, Un solo fiume dedicato al papà che morì di un brutto male, oppure c'è una poesia di Pablo Neruda che si intitola Il padre. Ma facciamo una scelta controcorrente, leggiamo, andiamo su Roger Waters, su Pink Floyd. Dai. Io lo leggo qua, per la prima, lo sanno. E questa è la bravura come, di un come, attore come, come, come dicono i latini, ex abrupto, all'improvviso, abrupto. Così non si incrociano l'occhio queste parole. Sì, io non l'ho mai utilizzato. Lotito forse utilizza questo tipo di formalità. Lotito perché? Perché lui parla solo latino, almeno inventa il latino. Ma tu perché lo conosci così bene? Non lo so. Non lo sai? No, non lo so. Non... Ma perché ti fi... No, non seguo il calcio, io la domenica lavoro. Per cui dopo mi collegherò con mio amico. Ti mettono però il fonico quello. Anzi, non mi hanno detto niente, che cominciava 10 minuti le partite, ma io sono qui per combattere contro il calcio. Allora, con un sottofondo degno, certo non abbiamo un pezzo dei Pink Floyd perché non serve neanche, non si sa, vabbè, vediamo se Valerio insieme ad Alessia sono inventati qualcosa. Allora, questa è, come si intitola? Come un padre? Un solo fiume. No, un solo fiume, Roger Waters. Prego. Quando il vento falcia le messi e gli uomini validi cadono e i bimbi impauriti e increduli si rannicchiano nelle braccia tenere delle madri a proteggersi dalla lama incurante dei banditi. Mio padre è ora distante ma vivo e caldo e forte in una bruma uniforme tabacco. Parla. Figlio mio, dice, non opporti al dolore del tuo lutto, ma affilane e punta nella lama che tu non sfugga mai, obnubilato, crudele, a sfide ardue da sostenere. Che prezzo ha un figlio? Quale? Il tuo? Il mio? Questo a casa? L'uccellino in plume che ingolla scodelle di vermi di pasta, oppure quello in TV morto e sgranato in qualche fosso dei Balcani. Non riuscire a capire che il lutto di altri padri nega i legami forgiati in sangue filiale e il vessillo lucente passato da uomo a bambino al posto d'onore forte, privo di meschinità e rancore. Quindi raccogli le tue lacrime, dice mio padre, raccogli in una coppa quella medaglia di sale, sgorga da un unico fiume. Su quel fiume, figlio mio, mi sono giocato la vita. Beh, questo è il vento dei Pink Floyd. Black 44. Bella, difficile. Sei stato scelto una direzione bella. Abbiamo letta così. Beh, abbiamo letta così. È un mestiere, beh, il nostro. Lo so, ma questa cosa bella, che uno arriva a un foglio e comunque l'interpretazione la dà. Bella, era Satie il sottofondo, sì, vero? Era un pezzo di Satie. Gymnopédie. Che l'ho imparato in tanto. Sa passandì. Parli francese? Oui, oui. Tutte e due? Pas de chat, pas de qua. Va da tutte le parti. Qualcuno ci chiede se puoi recitare Fra Martino Campanaro recitato in modo drammatico. Non so le parole però di Fra Martino. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din, don, dan. Beh, su questa per te, voi sanatomi, finisce qui. Beh, l'abbiamo fatto però, ci è riuscito, non è una missione impossibile, ma veramente hai fatto tante saghe. Ti sei preso pure un Woody Harrelson, ma saghe, si può dire saghe? Intigna. Ho capito, ma io tante saghe. A questo punto io mi ascolto anche Hunger Games. Io sono morto, ho fatto le prime due, ero Lenny Kravitz, facevo lo stilista. Vabbè, c'è poco, poi mi ammazzate pure a un certo e punto. E lì la scelta è stata di Alessandro Rossi, il direttore, che sì, è diverso. Su Woody Harrelson, che io non sì, avevo... lo fa Pedicini, io ho avuto il piacere di farlo su True Detective. L'ha fatto anche Massimo Lodo. Sì, è stato passato. Non è un attore, diciamo, che... Di quelli che hanno quella voce e basta. Consolidati, esatto. E allora a questo punto ascoltiamoci però un momento di Hunger Games, non so quale dei 12 Hunger Games, ma vediamo, ascoltiamo. Magari 12. Alison, vai! Voi due avete un compito molto semplice. Non volevo che qualcuno morisse e lui deve saperlo. Chi deve sapere che cosa di che parli? No, è venuto a trovarmi. Ha paura che gli stretti si ribellino, che non credano alla nostra storia. Lo sai, forse dovevi dirmelo prima che provassi a fargli avere dei soldi. Scusa, non sapevo che cosa fare, ha minacciato la mia famiglia. Perché l'hai fatto? Ti prego, aiutami a finire questo viaggio, ti prego, aiutaci a fare solo questo. Questo viaggio, sveglia, ragazza! Questo viaggio non finisce quando torni a casa. Non scendi più da un treno come questo. Voi siete due mentori adesso. D'ora in poi dovrete essere una distrazione, perché la gente dimentichi quali sono i problemi reali. Eccolo, questo era il 2, mi dice qualcuno era più in realtà. E loro sono Manuel Meli e Joy Saltarelli, che certo. Doppia lei e la Jennifer Lawrence. Benassi, dica. Tu devi tornare, perché bisogna parlare lungamente della tua vita artistica, perché riguarda anche la vita dei film che abbiamo amato e non solo. Per cui adesso aggiungeremo materiale, esatto, si continua a lavorare. Fra 10 anni, adesso ci ha raggiunti anche l'amico, non solo di Radio 24, amico di tutti, il Gegè Telesforo, e c'è il grandissimo imitatore Luca Virago, che vinse stasera Mi Butto, un anno importante, vinse un Sanremo giovane, insomma, e poi anche i Barahona che ci accompagneranno in questa avventura musicale. Guarda che bello Gegè Telesforo, non gli è passato un secondo, anche lui frequenta degli... Bello magro, senza filo di panza. Lui sta bene, che importa, lui trasmette da casa, fa ginnastica, poi suona, lui fa gli scat, per capito? Quota, per fa quota. Gli scat da 100 metri, 200 metri, 300 metri. Ma pure lui qualche annetto ce l'ha sulle spalle. Sì, si porta anche non bene. No, la voce se la porta benissimo. Però guarda come si è fonato bene i capelli. Sì, perché sa che siamo per radio, per Caruccio, cui è importante. È importante. Hai capito, Benassi. Stefano, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a te Pino, grazie a tutti gli ascoltatori. Passate una buona domenica, esatto. Forza e coraggio. Bello, vedi, incentivo, ti salutano, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ti fanno tanti complimenti. E noi a tra pochissimo, Voice Anatomy, con questi straordinari ospiti. A tra poco. Voice Anatomy. Non sapete cosa sta succedendo all'interno di questa stanza, stanno occupando le postazioni. Sì, ci siamo. I Barona al mio fianco destro, al mio fianco sinistro, Giaggette Lesforo e Luca, quando è pronto magari il prossimo blocco facciamo entrare anche Luca e stiamo tutti insieme musicalmente. Questo è il mio microfono? Questo è il tuo microfono? Lo conosci il microfono? Il microfono è bello questo. Guarda che sta facendo, ma com'è bello, perché non c'è un microfono così? Buon pomeriggio a tutti, no? Buon pomeriggio, buon pomeriggio Pino. Intanto ti faccio gli auguri. Tu fai il conduttore, ti prego, fammi. No, ti voglio fare gli auguri perché San Giuseppe, esatto. sei papà. Falegname, tutto. Falegname, sei tutto. Stai facendo un programma bellissimo sulla mia radio preferita. Lo esatto, sai, no? Tu la conosci perfettamente questa radio. La conosco. Vorresti lavorarci bene. Un po'? Sì, però la sera. Magari la sera. Con un programma di musica il sabato e la domenica. Sì, secondo me il tuo core business è proprio quello. È quello. Ma sulla io quello musica. So fare. Sì, hai cominciato però troppo tardi, in effetti. È vero, sì, verso i 17. Esatto. 16, 17 avendo anni, tu 22 sì. anni, hai cominciato tardi. È facile cominciare adesso in questo panorama musicale così vasto. Certo. Ma che bello, Gegè. Che poi noi ci conosciamo da sempre, ma ci siamo frequentati. Però la stima profonda di quando senti e vedi una persona, mi sto rivolgendo questo momento con lo sguardo ai miei amici Barona con i quali condivido ogni tanto un palcoscenico. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Siete pronti? Ciao. Allora, pronti? Mi dedicate una cosetta a Gegè, visto che voi questo fate con la voce, perché dopo io voglio sentire anche Gegè, Sì, okay. Che poi il nome vero è Eugenio Roberto Antonio Telesforo. Mamma mia, non facevi una lira se facevi l'attore così, però. Ma infatti Gegè però funziona. Che mi dedicate a Gegè? Lui è di Foggia, però voi siete un po'. No, nel senso che loro sono partenopei. Diciamo allora una cosa più jazzistica. Eh sì, perché insomma, visto. Dici? Ma sì, figura. Una cosa così. Tipo... Non so se Gegè. No, a me piace tutto. Ti piace il jazz, sì. No? Un minimo. Sì, un po', lo conosco un po', sì, lo frequento ogni tanto. Esatto. No. Allora ci siamo? Sì. Vai. It don't mean nothing if he ain't got a swing. Jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua. It makes no difference if it's sweet or hot. Just get a rhythm, everything you got. It don't mean a thing if he ain't got a swing. Do I mean a thing? Sweet I do tweety don't gin do pop do tweet do my name babs with the other pop blue the pops do tweety do sweet and tweety de tweety do yo do pie de baby put the name of a blue the pops up so about the tweet tweet do swing. Jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua. Questo ero io. Ragazzi, una session qua dentro così. Beh, è facile, però con uno scat così. Questo è il manifesto del jazz, il manifesto dello swing, Dominant Thing, scritta da Duke Ellington e Billy Strayhorn, no? Proprio Chuck Berry ci ha salutato stanotte, avete saputo? Sì, lo sappiamo, però fortunatamente bravo. Per noi ci ha salutato a 90 anni dopo aver fatto tantissime cose. Esatto. Invece a noi dispiace quando muore, che ne so, Michael Jackson, Prince, Giovanni. Ancora esatto. Che avrebbero potuto dire tante cose. È vero. E li perdiamo. Senti, allora Gegè, ma abbiamo cominciato proprio bene questa benissimo. Vorrei un pezzo di Michael Jackson, brevissimo. No, ma che c'entra adesso? Scusa. Prince? Ma no, ma come si chiama? Jukebox, F4. Ciao Gegè. Vabbè, Gegè, no, dacci il tempo, io non ho fatto in tempo a parcheggiare la macchina. Esatto. No? Insomma, il signor Eugenio Roberto Antonio Telesforo, insomma, lo sapete, è un cantante, è musicista, è un conduttore televisivo, radiofonico, polistrumentista, vocalista, compositore, conduttore, autore. autore di programmi radiofonici e televisivi. Mi sembra come il film Woody Allen. Sì, ma però... sei capace a fare così? Dai, fai sì, tutto. Però tutte queste cose le faccio male. Esatto, ecco, quello era il finale. Era sì, il finale. No? Il finale. Ah, lo stavi aggiungendo certo, tu. No, che facesse bene. Scusami, una. No, non è vero, non è vero. Non è vero, non le fai male per niente. Appassionato e profondo conoscitore, ovviamente, di musica, in particolare jazz, fusion. Collabora con giornali, riviste specializzate, conosce e pratica lo scat, che non è uno sport, ma è quello che avete sentito all'interno sì, di questo momento, dove ci sono questi movimenti funambolici della sì, voce. Sì, una sillabazione. Ma l'hai fatto in momenti non sospetti? La prima volta che ti ho sentito in televisione facevi questo, sono sì, passati 30 anni. Ma infatti mi prendevano per pazzo. Io sì, lo dico sempre che tattaglia questo. Quando ero bambino e facevo tutto il giorno queste cose, oppure suonavo la batteria, il pianoforte, facevo e cantavo, imitavo gli strumenti con la voce, pensavano veramente che io avessi dei seri problemi, perché riuscivo a difficoltà a socializzare con gli altri amici. Io ho iniziato a frequentare certo, le ragazze molto tardi. Perché loro era la canzone del sole, tu dovevi cantare quella e potevi rimorchiare. Bravo Pino, no? Quello, perché quando si andava alle festicciole, noi si portavano i dischi da casa, esatti, 45. Io portavo il vinile di papà, che certamente quando lo mettevo su e suonavo Charlie Parker, Duke Ellington, ma non so da festa proprio, e infatti rovinavo le feste e quindi venivo emarginato. Cioè, già Around Midnight metti un Thelonious Monk e già ci sta esatto, e esatto, ci sta, però esatto, sai, Charlie Parker no, più in là ho capito invece che c'era un mondo che comunque mi apparteneva, che avevo nel DNA, che era quello più funk, soul, R&B. Quindi quando sono entrato nel mondo di James Brown e poi gli Earth, Wind & Fire, Marvin Gay, tutto quell'altro filone della black music, ho iniziato a frequentare anche le ragazze. Certo, che hanno capito che il movimento pelvico aveva la sua importanza. Ci stava. Sempre sulla sessualità si risolve la vita di una persona. L'ultimo grande poeta, tu hai scritto quelle cose. No, per rimorchiare pure. Vabbè, Leopardi, voleva Silvia. Viviamo di ricordi, viviamo di memorie. Sì, parlate per voi. No, io faccio entrare anche Luca Virago adesso, che lui è un grande imitatore, però mi serve poi. Aspettiamo la fine di questo blocco, Luca. Però un pezzo di troppo. Vieni, Luca, entra un attimo. Perché Luca, oltre ad essere un grande imitatore, è anche un imitatore di suoni. Caro Luca, mi è venuto da Booster Sizio. Ciao Luca, ciao. Luca, utilizza questo microfono intanto una tromba, visto che abbiamo parlato di... Lo sta facendo con la bocca. Non è una puntata normale questa qua. Non è una puntata normale. Ci abbiamo veramente detto o viene il 112 o il 118. Il circo hai, esatto, hai organizzato. Freaks si intitola questa puntata. Perché con Gegè, insomma, lavoriamo nella stessa radio. Dico, ma perché parliamo di voice anatomy, cioè l'anatomia della voce, la voce declinata in tutti i suoi meandri. Dico, Gegè, questa è roba tua. Insomma, non sapevo se faceva da Milano, se stava da dove programmi la tua trasmissione. Non lo so, tu sei qui a Roma. No, io lavoro in uno studio distaccato dalla sede centrale. Sì, dalla sede centrale di Roma è quella di Milano. È uno studio che si chiama Groove Master Studio. Perché per fare un programma di musica specializzato come il mio avevo bisogno di essere di uno studio particolare, cioè pieno di musica, di dischi, di vinile, di CD, di strumenti. Io mi devo portare da casa il jukebox, che sono ma i Barahona. Ma no, i Barahona sono fantastici, si sono presentati pure con la tastiera. Sì, no, sono... Tu lo sai che io questi ragazzi li conosco da 30 anni. Io lo sono sicuro. Credo di essere stato uno degli artefici. Infatti, anche della sì, loro del vero, loro mi ricordo una trasmissione notturna con te, mi ricordo, passammo tutta una notte a parlare di diciamo musica, che c'era di tu e tuo fratello, le due Barahona sono più giovani. No, c'erano le sorelle 30 anni fa, c'erano no, le sorelle. Non c'erano le sorelle. È cambiato qualche elemento, perché anagraficamente sennò non ci troveremmo con gli anni. 30 anni fa, 30 anni no, fa però erano comunque 20 anni fa. 20 anni abbondanti. 30 anni fa già avevamo noi un inizio di prostatite, per cui eravamo già grandi, cioè non è che questo non lo so. No, quello no, ovviamente non mi riferisco a te, Gegè, non voglio offendere un ospite. No, figurati. Arbore come ti ha catturato? Uno come te se le prende. Allora, con Renzo la storia è particolare, intanto perché siamo tutti e due foggiani, quindi vero, quando io poi mi trasferì a Roma per studiare economia e commercio, quindi non per fare il musicista, la scusa, io già suonavo, facevo musica, la scusa fu quella di trasferirmi a Roma perché dovevo studiare economia e commercio, cosa che finì prestissimo perché feci un incidente una mattina andando in facoltà, proprio perché la notte avevo fatto tardi per fare musica nei locali di quel periodo, Music Hill, Manuia, con i nuovi amici Roberto Gatto, Rita Marcotulli e così. così. Beh, non è una pianista niente male. No, per dire, ma no, quella è la mia generazione. No, quindi feci un incidente la mattina perché mi addormentai al volante della 126 di mamma. Ah. E allora, allora non c'erano i telefonini. Quando tornai nel residence dove vivevo, chiamai mamma e dissi: mamma, purtroppo per te la tua macchina finisce La macchina è distrutta, però finisce qui anche la mia carriera universitaria. Ho detto: ma che c'entra sta cosa? Sì, perché ho capito che l'università è troppo pericolosa per un musicista di genere. E infatti finì la mia carriera, andai a fare il militare e poi mi sono ritrovato veramente immerso nella musica, in tutto quello che poi ho fatto. Fatto sta che con Renzo iniziai subito a lavorare, e la prima cosa che ho fatto con Renzo, dopo aver fatto un'audizione, però attenzione, fantastica, se volete ve la racconto, perché sì, mi disse: certo, guarda, faccio questo programma, si chiamerà Telepatria International, ovvero Niente paura, siamo italiani, un programma che non ebbe grande successo. Renzo entrava nello studio con su un cavallo bianco. Sì, me lo ricordo. E allora mi disse: però devi andare a fare l'audizione dal maestro Gianni Mazza. Va bene, vado dal maestro Mazza. Giannino. Perché sta lui selezionando i musicisti per fare la band. Ok, allora mi presi appuntamento col maestro Mazza e mi presentai a casa sua nell'orario stabilito, alle 10 del mattino. Iniziai a bussare al campanello della porta, ma non sulla casa, e non apriva. Continuavo din. A un certo punto mi apre uno scapigliato in mutande. Brutto. Fatto, scusi, è brutto. Sì, chi cerca? Sto cercando il maestro Mazza. Sono io, venga. Gianni è così. E mi fa. Mi dispiace che non c'è, ma lo chiameremo per telefono fra poco, perché è persona di una simpatia assoluta. Però non se, bello. Se non fosse bello, che non si ricorderà nulla, perché lo sai che già, se Gianni conosci così, Gianni, Gianni avrà rimosso tutto. Fatto sta che mi fa: bene, allora perché sei qui, maestro? Ma io l'ho chiamata per fare l'audizione come batterista per la band di Telepatria International. Ah, è vero. Senta, Telesforo, lei sa fare swing? Sì, è proprio la mia specialità, certo. Perché suono jazz. Ah, suona jazz, ma i ritmi binari tipo R&B, soul, funk li sa fare? Sì, li so fare. Qualcosa di latino riesce a farlo? Sì, lo so fare. Va bene, allora vada, ci vediamo alla prova di costume. Fine dell'audizione. Ben provino, è stato benissimo. Magari fosse sempre così. Lei sa recitare? Sì, benissimo, ma una parte drammatica la fa? Beh, certo, sì. L'affronto alla grande. Bene, lei è stato preso. Ma questo è fantastico, è fanta professionale, ma è meraviglioso. Va bene, a tra pochissimo con Voice Anatomy e con questa carovana di persone che hanno la musica nel cuore, cercheremo di renderla tridimensionale. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, Pino Segno qui dai microfoni di Radio 24. Alla mia destra e alla mia sinistra sono circondato dagli ospiti straordinari. La mia colonna sonora d'eccezione sono i Barona, che saluto. Ciao Vito, ciao Daphne, ciao Pino, ciao Leonora. Auguri anche ciao, da parte nostra, auguri. Pino. Ah, è vero, è vero. Vabbè. Giuseppe. Ciao Delio, ovviamente. Gigi Telesforo qui al mio fianco, il bravissimo Luca Virago. Quando hai vinto tu? Stasera mi butto. Vieni qua, vicino a me. Nel 92. L'anno dopo di Panariello, eccetera? Sì, c'era l'1 nel 90, poi stasera mi butto 2, 91 e 92. Senti, a proposito di anni, ce n'è uno che ha 91 anni che abbiamo raggiunto telefonicamente, un uomo scapigliato, che non è certo un movimento letterario, ma fece un provino anni fa, un provino molto intenso a Gigi Telesforo, e Gigi Telesforo è qui grazie a lui, all'intuizione di Gianni Mazza. C'è Gianni al telefono? Sì, Gianni! Maestro! Ciao. Buongiorno, senti, ma se io faccio una pernacchia, passa oppure me la cazzate? Passa. Con la tua R moscia la pernacchia la puoi fare, Gianni, perché è elegantemente francese. Lui fa elegantemente francese, va bene. Buongiorno a tutti, buongiorno Pino. Buongiorno. Ciao maestro, ciao. Gianni, senti, a parte non parliamo della tua estetica, del tuo viso levigato dal tempo, ma dal mare, esatto, a lui piace così. Che sia un marinaio, e lui, sì. Lui è come Clint Eastwood, lui invecchia come Clint Eastwood, sì. Non avendo fatto manco per un pugno di dollari, però no. Senti, ma è veramente, si è presentato a casa tua, mandato da Renzo Arbore, è vero, e tu gli hai fatto un provino chiedendogli: ma è vero che sai fare questo? Lui diceva sì. È vero che sai fare quest'altro? Sì, e l'hai preso senza che abbia. Io ci ho creduto, e perché? Ma dico non ti andava. Boh, sei stato fortunato perché Gente Lespero è diventato Gente Lespero grazie anche alle intuizioni tue di Renzo. No, ma quello c'è quello, un maestro ha l'intuizione, ce l'ha. Non lo sa fare, Gente, non lo sa fare. Le persone prima di sentirle le osservo. Gente mi ha dato proprio l'impressione di essere uno che sapesse fare tutto quello che diceva. No, no, massa, Gianni, tu gli hai aperto in calzoncini del pigiama, noi mutande, con i capelli come ce l'hai te già anche adesso, eccetera. Tu non vedevi l'ora di andare a fare una doccia, secondo me l'hai liberato. Te sei giocato il jolly. Ma tu sei, guarda, tu sei malfidato. No, non credi nei miei poteri. Ma quali poteri? Di capire le persone. Allora. Vabbè, vieni da me e io ti chiedo anche delle cose. Mi reciti un sonetto di Shelley. Ma lo sai che lo fa? Ma lo sai di Shelley? Mi dici sì e io... Ma no, esatto. Gianni, se io domani mattina ti mando una persona a casa che te bussa e dice voglio farla, sì, quello sicuramente lo trovi, voglio fare il musicista, e tu gli fai le stesse domande o mandi via adesso, no? Gli faccio, mi canti un azzurro. Mi canti azzurro. Guarda, se vici, me lo canta. Adesso senti questo, è venuto sì, Claudio sì. Baglioni ci è venuto a trovare, esatto, e te lo voglio far sentire un attimo. Certo. Cosa, questo buongiorno. Piccolo grande amore? Facciamo quella, sì. Però non c'è il mare. C'è il mare, c'è il mare. Fai il mare tu, sì, gli uccelli. Sì, Claudio, tutto. Senti com'è, quanto è diventato bravo Claudio. Sì. Bravissimo. Aspetta, Maestro, aspetta. Bravissimo. Vai. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. Ah, c'è bello, vabbè, vabbè. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. Ha preso un piccio nervio. Vabbè, hai capito, Mazze, come siamo qui? Ma è bellissimo. È vero, bellissimo. C'hai i brividi, eh? Io sto qui che sto giocando con la sabbia, col secchiello. Ma che... Ma non sta bene, mazza. Non sta bene. Però la simpatia di quest'uomo, te l'espero. No, troppo forte. Devo dire, ma abbiamo fatto Clan tanti... Arbore ha un grande dono. L'autoironia si chiama. Sì. Si chiama professionalità. Si chiama conoscere il proprio mestiere, ma va si bene. Chiama anche grande autoironia. Sì, ci siamo divertiti tantissimo. Senti, tu adesso c'è la passeggiata, ce l'hai alle 18, no? Giù in giardino con tutti gli altri che stanno come te lì. Le bocce, sì. Le bocce ci abbiamo. C'è delle bocce, poi delle c'è bocce. Stasera, c'è ricreazione. A noi piacciono le bocce da sempre. Tace! Ma guarda, ma è veramente. Parliamo di musica, di R&B, di scat. E faccio le bocce. Già gli avevi fatto sentire il disco? No, adesso l'ha portato l'ultimo disco. Non di lo so, io non ce l'ho. Ah, complimenti. Te ce l'hai? Ma sono bravi. Però li troviamo in internet, dai. Li troviamo in internet? Sì, non è bello per un musicista, dico tanto li troviamo no, in internet. No, ma c'è su YouTube, no, dai, troviamo tutte le... Non si trovano in internet. No, se trovo purtroppo. Non so, ma è il mio. Che faccio, mi compro il disco mio, Gianni? Qua già non si vendono, me lo devo pure comprare. Ah. No, lo devi comprare per me, ma che c'entra? Ma per te no, per te ce l'ho a casa, Gianni. Madonna, dai, che scherzo. Beh, no, ma dai, pensavamo per il serio. Tu sei serio quando fai così. Gianni, ti diamo un bacio, sì. Mettilo dove vuoi. Buon lavoro e grazie senti della che, chiamata. Senti, quella R ciao, moscia Gianni. Lo salva. E quella salva. Ce l'ho sempre io. Esatto. Un bacio. Ciao Gianni, grazie. Ciao maestro, ciao. Era il maestro Gianni Mazza che ha portato un po'. Ha confermato che è stato l'intuizione. Ha confermato sì. Quella è stata l'intuizione. Ma meno male se l'hai ricordato pure l'episodio. Ma gli abbiamo ricordato, ha fatto finta. Sì. Ah, ha fatto finta. Si ricordava, no? Ma Gianni, mi permettiamo di trattarlo così perché è veramente grande ironia. Che ci avete da regalarmi? Mi fate una sigla, una cosa? Una sigla possiamo fare... Dove in bocca il grande Gegè. Gegè, questo disco, ma questo è l'ultimo che... Il tuo ultimo lavoro? Sì, sì. E non te lo sei portato con te? Non l'ho portato. Non è male. Vabbè, però è bello questa cosa. Non pensavo che volessi fare pubblicità anche. No, perché lo recuperiamo, cioè di qua lo tu parli recuperando. Di voci, non di musica. Beh, ma musica no, è voce. Hai ragione, è la voce. No, ma anche per te ho sbagliato. La dai. Musica, vabbè, no. Sbaglio, te lo mando col corriere. Ma sei mortificato, Gegè. Che mi fate dove mi puoi entrare una in grande telesforo? Una cosa molto autobiografica per te. Ma vostra o mia? tua, un po' di tutti e due. Ah, vabbè, andiamo bene. Voice Anatomy. Sono metallista, sì. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Boys Anatomy. Boys Anatomy. Boys Anatomy. Io sto zitto perché questa è la sigla della prossima puntata. Ma bellissima, dai. Yeah. Ed è registrato. L'abbiamo, sì, è l'unico che non ci sarà il podcast di questa puntata. Ma sia veramente una cosa brutta. Beh, fa, vi piace, non c'è facile così. Anzi, ci giochiamo veramente lo straniero, come si dice. La voce. Quando hai scoperto questo dono? Da bambino rompevo le palle a tutti. Cioè, stavo in casa. Quando sei nato, loro erano armonizzati, che sono fratelli e sorelle, quando sono nati facevano uè, uè, uè, uè, erano armonizzati. No, vabbè, è nato a casa, perché papà è un appassionato di jazz, un architetto appassionato di jazz, in una casa a Foggia piena di strumenti, di vinile, e quindi il mio gioco preferito era ascoltare i dischi di papà e memorizzare non solo le melodie, le canzoni e via dicendo, ma gli assoli soprattutto, quella era la mia specialità, quindi io doppiavo tutti gli assoli di Charlie Parker, di Coltrane, di Oscar Peterson, e l'ho fatto per anni, finché poi il linguaggio non diventa automatico, non lo fai tuo, e ti esprimi vocalmente come se avessi uno strumento. Questa, ecco, questo è Next. Sì, Next. Questo è il disco nuovo, Next, Alan Hampton. At night you dream, asleep you walk, and lately you've been falling. A voice you knew when you were young has once again been calling. Who could it be you're dreaming of? Who are you falling for, my love? Not one to wonder off, and still I'll ask you in a hurry. Who could it be you're dreaming of? Who are you falling for, my love? Ecco, lasciala, questa t'accompagna veramente. Signori, ben sintonizzati, è l'una meno un quarto di notte, sono qui con voi con questa musica straordinaria, con queste note straordinarie. Bello, potete chiamare, sfogarvi con me, questa è una notte aperta a tutti. Insieme posso prendervi per mano e accompagnarvi forse alla soluzione del vostro problema. Chiamatemi. Amo profondamente questo genere, così. Ho detto a lui erroneamente Michael Franks, sembrava un cantante che è sparito da un po' di tempo, ma ha fatto veramente una quindicina, ventina di album negli anni 80. Tra l'altro, Michael Franks è stato prodotto nei primi anni 70 dal più grande producer discografico di tutti i tempi, che era Tommy Lee Puma, che è morto pochi giorni fa. Lui è anche quello, è il segreto di grandi successi. Pochi giorni i produttori. Sì. Ma un producer come lui ha cambiato anche proprio il modo di produrre, le regole della produzione discografica. Lavorava proprio a fianco con i musicisti. Io l'ho conosciuto, insomma, eravamo amici, è stato a casa mia, ospite, un personaggio fantastico. Qualcuno forse non potrà dire niente, è stato a casa mia Tommy Lee Puma, sembra un soprannome di uno della banda da maglia, non è così. No. Cioè Tommy Lee Puma è un grandissimo. Beh, insomma, per fare dei nomi. George Benson era sempre lui. George Benson, Al Jarreau, Anita Baker, Dr. John, Manhattan Transfer, anche gli ultimi successi di Diana Krall con le Big Band. Tommy Lee Puma dietro, sì. Hai capito? Non è. Però tu hai conosciuto, prima parlavamo con Alessia Navarro, un racconto della tua vita che mi ha entusiasmato. Tu hai conosciuto Ray Charles. Sì, perché... Però è stata una situazione molto particolare. Sì, particolare. Io sono doppiato perché il film in quel periodo, quando noi facevamo Doc in TV, no? Il programma di musica di Rai 2, insomma, venivano tutti quei personaggi famosissimi. E allora in quel periodo io diventai molto amico a Didi Bridgewater. Così, Didi Bridgewater, prima del grande successo. Sì, prima del grande successo, perché lei si trasferì a Parigi dagli Stati Uniti ed era considerata non solo una formidabile cantante di jazz, ma ancora come dire, alla ricerca del successo. Certo. Quindi stava a Parigi, stava facendo la sua carriera e noi la chiamammo a cantare ad hoc, facevamo amicizia, e quindi tutte le volte che lei tornava in Italia, meraviglioso con Renzo Arbore, sì. E quindi tutte le volte che lei tornava in Italia veniva a trovarmi, e allora una volta lei mi chiamò, io le dissi: guarda, vieni da me, vieni in studio, Didi. Ho detto: ma perché? Perché c'è un ospite che io ti voglio far vedere. E lei si presentò in studio e c'era Miles Davis. Ah, così. Quindi tu pensa alla cosa buffa, che uno di Foggia ha presentato a Didi Bridgewater Miles Davis. Beh, no, vabbè. Questa, e lei lo dice sempre. No. Fatto sta che poco tempo dopo... No, però aspetta, dopo... dobbiamo raccontarla bene, che siamo nella prima parte, non è ancora la pausa... Pranzo, GR, vero? Non è già quella dopo. No, vado piano piano. Abbiamo 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1. È esattamente 15:45 in questo istante. Do la linea alla pubblicità. Grazie, restate con noi perché la prima parte è finita. No, la prima parte è finita, ma c'è il racconto. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Bentornati, rapidissimi. Gigi Telesforo stava raccontando come ha conosciuto Ray Charles, ma nel frattempo lui di Foggia ha presentato Miles Davis a Didi Bridgewater. No, questa è la premessa, no? Una bella premessa. Perché insomma, poi, tempo dopo, qualche settimana dopo, un mese dopo, mi richiama Didi: hey, you know, JJ, I'll be in Italy again. Ah, perché stai di nuovo in Italia? Perché I'll be in Montecatini Terme, because fai fanghi. I have a TV show with the guy Pippi Bau. Pippi Baudi. Okay. Va bene, what you do? The show is Serata di Onore. La Serata di Onore, okay. But you know, I'll be there with the genius. With the genius? Yes, with Ray Charles. I'll be with Ray. No, Ray Charles, ma noi avevamo fatto di tutto per averli in TV. Certo. Impossibile, perché costava tanto, girava con la big band, poi insomma anche problemi logistici, puoi immaginare. Allora, che era sabato, quindi io non avevo il programma. Il sabato ho detto: sai che c'è, Didi? Io vengo a Montecatini e così stiamo insieme. Mi metti in macchina, il sabato arrivo a Montecatini, vado direttamente in teatro. C'era naturalmente Saluto Pippo, tutti gli amici della Rai che stavano preparando la puntata in diretta. Certo. Allora incontro Didi, fa: come with me. E io vado cosa, bussa alla porta, c'è un bodyguard nero gigantesco: hey Didi, how are you doing, baby? No, this is my friend JJ. Hey Ray, this is my friend JJ, you know, he's a jazz singer and he's the MC of the show Doc. Hey JJ, man, please have a seat, man. Cavolo, fai un uguale, vuoi doppiarlo tu, Richard, sarò io. Hey man, cavolo, have a seat, man. E io mi siedo lì, stava seduto, sai, proprio con il pantalone dello smoking, le scarpe lucide e la canottiera bianca. Certo, ed era lui, è così, Ray Charles in persona che si muoveva, dondolava, col blinding. Allora io gli do la mano, lui mi prende la mano, mi tocca, certo, mi mettono la sedia di fronte a Ray Charles. Ci ha toccato Ray Charles. Sì, inizio a parlare, certo, con lui e dirgli: ho comprato adesso un altro disco dove tu non canti, suono il contralto con Milton Jackson. Okay. Ah, yo, man, you have that record, yo. Didi, yo. Fatto sta che mentre noi chiacchieravamo e Didi stava a fianco a noi, c'era quel bodyguard gigantesco di spalle che stava facendo qualcosa sul tavolo. E quindi durante la chiacchierata, del più e del meno, io emozionatissimo, non sapevo veramente, però lui parlava ogni tanto, mi toccava, mi metteva, certo, le mani sulla faccia. Cieco, non voleva vedere uno di Foggia come è fatto. Esatto, no? Non l'avevo sentito parlare. Vediamo come è fatto. Conosceva gente di Brindisi, di Otranto, ma Foggia, non di Foggia. No, la prima Foggia volta. È vero, lei è così. Esatto. Allora, tu lavoravi su Rai 1 o Rai 2? Rai 2. Tu stavi, va bene. Allora, a un certo punto, mentre noi stiamo parlando, il bodyguard si gira e fa, esclama così: hey Ray, this is your joint, man. E infila un cannone, una sberla di canna di dimensioni abominevoli. Dai. Così, una cosa accesa. Erba, figurati. Certo. E quindi Ray prende questo cannone e inizia a fumare. Ma per lui era tranquillante. Io, quando l'ho vista questa cosa, ho detto: ma Dove mi trovo? Che busto. Capita, mi trovo a Montecatini, nel teatro di Montecatini, con Pippo Baudo che ha falcate in lungo e in largo, nervosissimo. E stavo lì con Didi Bridgewater e Ray Charles con questo cannone. Fatto sta che fumando, Ray Charles a un certo punto fa: Didi, do you smoke, baby? E Didi fa: No, Ray, because devo cantare. Certo. Devo cantare. Oh, me too, but I don't care. Chi se ne frega. Certo. E continuava a sbagliare. A un certo punto fa: Hey Jade, do you smoke, baby? Che gli dici di no? Allora la domanda che io voglio fare a tutti i radioascoltatori, a prescindere dall'appartenenza, il credo religioso, politico, certo, il ceto sociale, esatto, quello che volete, voi al posto mio, esatto, che avreste fatto di fronte a Ray Charles? Che te dice? Che avreste fatto? Lo dico in regia. No, no, se no, guarda. Sì, hanno alzato sì, la mano. Tutti la passa mano. Una canna con Ray Charles. Meno male, siamo tutti d'accordo. Esatto. Quindi non ho fatto un peccato mortale. No. Tanto non devi essere eletto presidente della Repubblica in America. Il musicista di solito deve fare vivere delle esperienze. Io le dovevo vivere tutte. Ti sei fatto una canna con Ray Charles? Ho fumato la canna di Ray Charles, ma non potevo immaginare che quella non era la canna di Faustino, sì, Mario Pezzini, certo. Era la canna di Ray Charles, per cui dentro e c'era. Quindi è tutto proporzionato: grande artista, grande successo, grande canna. Esatto. Okay? Quindi ho dato due c'era Villa Panfili dentro, non c'era l'erba. Ho dato due svampate. A un certo punto ho iniziato a sentire che qualcosa stava cambiando. Sì, sentendo pure la polizia Radio 24. Ma niente, mi arrestassero, non vale. Retroattivo, no, non vale. Esatto, okay. Prescrizione. Inizio ad avere proprio un problema di compatibilità con me stesso. Di deambulazione. No, ma perché ero seduto? A un certo punto ho iniziato a emozionarmi, a ridere, a piangere. Una cosa da idiota. Fatto sta che Ray Charles nel frattempo si stava vestendo. Certo. Sono usciti tutti fuori dal camerino perché avevano la perfetta. Io sono rimasto da solo nell'angolo del camerino di Ray Charles, terrorizzato perché ero completamente rincoglionito, certo, e avevo il terrore di incontrare Pippo Baudo che a falcate per correre un botte sulle spalle e una schicchera sotto le palle a Pippo, ecco. Ciao, come sei Pippo? Beh, in effetti non è male sta storia. Io sì, non è male, ma dai. Vabbè, poi bello. Mi è successo anche con Dizzy Gillespie, Phil Woods, no? Poi preso, sì, poi è stata eri tu che gli hai preparato, poi dici una botta qua, una botta là. Beh, le storie, io mi sto vedendo dei documentari delle biografie su questi grandi di una volta, insomma, cioè, poi lui l'ho doppiato e mi sono accorto durante il film che lui si è fatto prendere anche il calcinaccio di casa, per no, cui, vabbè, cioè, qualsiasi cosa, 12 pazzesco. Figli, mogli, vabbè, a volontà, però diciamo, una che, vita diciamo che lo spinellino per Ray Charles, no, era, capito, l'aerosol, sì, no? Sì, si era fatto un po' antinfiammatorio, esatto, è come, vabbè, non si possono dire nomi, stavo dicendo un nome di un medicinale, non si può fare, se non mi arrestano. Allora, tu Ray Charles non lo sai fare, però. No. No, però chi ci abbiamo di te? No, potrei farlo. Vieni vicino al microfono, vieni, stiamo insieme, che qui ci abbiamo soltanto 8 microfoni e siamo 12. Però no, non lo faccio oggi. Lui è Luca Virago, ovviamente. No, c'è Gen, non si può fare. Lui ha fatto benissimo. Poi sono, di solito canto come mangio. Sì. Cioè, italianissimo. Sì. Chi mi fai di italiano che chiedo un attimo al jukebox vivente che cosa, dove ti può accompagnare? Hai mai seguito il volo? Cavolo, aspetta, chi è? Renato Zero. Ruggero. Lo so, è uguale. Certo, è così. Lo accompagni? Non lo sa fare. Fammelo così. No, lui fa la trasmissione su Radio 24. Il Falco e Gabbiano. Ovviamente sì. Certo. Allora, fai un'intervista tu, fa Pino Insegni a Gegè come Ruggeri. Adesso fa questo. Allora, come state? Cosa avete fatto in questo ultimo weekend? Ma niente, io mi sono preparato la trasmissione e già credo che abbia cantato. Sì, sono passato da mia sorella a mangiare le fettuccine di funghi. Sti cazzi, ma non è un problema, cioè, fa niente, non è interessante. No, una domanda, Paolo. Fammi un pezzo però cantato su, così a cappella. Si può fare, non so, Renato Zero per esempio. No, ma fammi un attimo Ruggeri, dai. Ruggeri, un attimo, continua. Hai cominciato. Che tipo di notte, che ne so. No, niente, cioè, mi viene in mente quello. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro un cielo lontano. Sei più tu che lui. mi fa impressione perché ti trasformi anche fisicamente. Sì, eri diventato dell'Inter anche. E tu sei del Milan invece. Per cui, attenzione, attenzione. Ti cali nel personaggio. Chi ci avevi un altro italiano strepitoso? Io amo questo. Questo è voice anatomy, però ogni tanto goliardia nella voce. Non so se... Renato Zero dice. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Ci abbiamo tutto. Sto tirando fino a 56 che andiamo in una pausa del genere. Tu, poi, tu rimani ancora già dopo, sì. Sto qui, non mi non muovo. Te ne andavo, no, voi Maraona voi siete precettati, certo. Se no non fate lo spettacolo nuovo con me, per cui, e io cerco di fermarmi come posso. Cioè, che devo fare? Fai bene, fai bene. Capito, se no chiamo Gianni Mazza e che Gege... sono felicissimo. O vado da Gege con i vinili, ma io sono merce dei vinili. Voglio morire soffocato dai vinili. Mi fai un vinile per andare in pausa? Che ci abbiamo di vinili in vinile? Di questi antichi, tanto questi sono quelli storici. Qui è certo, quelli che ci sono. Abbiamo 40 secondi. 56, scusami, non sta zitta. Sara, chi è? Svegliati, è primavera. Questo è certo, De Gregori. Come fai a... Sono le 7, tu devi andare a scuola. Sara, prendi tutti i libri. Vai fuori, accendi il motorino, Luca. Va bene. Allora, piccola pausa, leggermente più lunga. Io ho imparato da poco a dire GR invece di TG, visto la mia appartenenza televisiva e amante della una vita che dico, beh, adesso c'è il TG. No, c'è il GR. Un paio di pubblicità e torniamo con tanto di Barahona, con tanto di Luca, grazie, e con tanto di GG. Dopo Miles Davis, Ray Charles, Diana Ross, Michael Jackson, tutti questi incontri. Va bene? Alla grande. Vi dirò quando ho baciato in bocca John Travolta. È andata veramente così. Voi non l'avreste fatto? Io l'ho fatto. A tra poco, voi sanatomi. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Eccoci signori miei, bentornati, 16:06 minuti e 41 secondi, Voice Anatomy, uno studio ricco, e come dicevano amici miei, studio ricco, amici ficco, era piatto ricco, amici ficco, i Barahona alla mia destra, Luca Virago che ringrazio, venuto da Bustarsizio, dal sud, da Varese. A raggiungerci con le sue belle imitazioni, la sua bella storia, e Gegè Telesforo con una storia bellissima, internazionale. Ho chiuso dicendo una cosa, ho fatto un piccolo outing e se lo saranno dimenticato. Insomma, parlavamo di quell'incontro che magico. Che hai baciato con la lingua John Travolta. Senza lingua, senza lingua. Senza lingua un bacio sulle labbra con John Travolta. Allora non è... No, non è peccato. È cosa normale. Sì, è normalissimo, cioè, posso dire benissimo di continuare ad essere quello che sono, mia moglie mi perdonerà. No, non per chi non avrebbe, ma chi non avrebbe... Tu hai detto, chi non si avrebbe mai un cannone con John... Ray Charles? No, ma io avrei baciato John Travolta, senz'altro. Avresti fatto io. Anche tu? Sì, certo. È enorme, eh? È alto, chi? John Travolta. È grosso, c'è una mano grossa. Ma io sono di Foggia, che c'è? Ho capito, è vero, me l'ho dimenticato che eri di Foggia, hai capito? Però, ma insomma, poi non è che è successo poi. No, non ci sentiamo più da un po'. Niente, lui è dopo. Perché lui ha fatto Pulp Fiction. Sì, da lì si è ripreso tutto. Si è ripreso perché lì era un attimo in calo, venne ospite dalla Carrà. Io mi travestì da inserviente per fargli fare la barba, perché non voleva non incontrare nessuno, eccetera. Sono entrato portandogli la lametta e la schiuma da barba, e il suo assistente italiano ha detto: ma questo è Pinozzegno, è uno che lavora in televisione. E lì l'ho conosciuto, cioè, perché dalla Carrà chiunque è venuto, Jack Lemmon, Liza Minnelli, sono venuto, e già un'altra volta alla fine ho detto: possiamo fare una foto in un inglese impossibile, perché dovevamo più capire. Mi abbracciò e mi baciò. E vabbè, fantastico. Questo non vuol dire niente, cioè, non, per ora, no, però non vuol dire niente. Non lui, fa scalpore. Io stavo simpatico, ero bello, cioè, non è che. Posso piacere anche agli uomini, che significa? Va bene. JJ, invece c'è una cosa molto importante. A parte che io vengo da te ospite e tu tornerai da me, perché dobbiamo raccontarci un sacco di cose. Assolutamente. Ma c'è sì. questa realtà che stai costruendo da un po' di tempo a questa parte, che dobbiamo parlarne assolutamente, perché si parla di bambini, si parla di voce, si parla di musica. Sono felice di farlo anche su Radio 24, perché è diventata anche la radio partner del progetto. Quindi un progetto che si chiama Sounds for Children, progetto che stiamo realizzando per UNICEF, che è diventato operativo proprio in questi giorni, dopo 3 anni di lavoro e 2 anni di sperimentazioni in giro, e quindi frequentazione continua con bambini. Che non sono bambini, che non sono i bambini di famiglia, quelli che abbiamo noi a casa. Esatto. Insomma, sono bambini che hanno una serie di problemi, che vivono in contesti sociali difficili, che hanno famiglie che non ci sono più, che non ci sono più, o famiglie o che se ci sono, non se ci sono, sono sì, allontanate, beh, da questi bambini. Insomma, guarda, dispiace anche pensare quello che vivono questi bambini. Fatto sta che siamo bambini multietnici, italiani, anche multietnici. La classe che mi è stata affidata è una classe in parte multietnica, quindi ci sono molti italiani, oppure figli di migranti, ma bambini nati e naturalizzati in Italia. La classe si trova nel quartiere di San Basilio, nell'istituto Gandhi. Sto seguendo, loro avevano iniziato la terza, adesso sono arrivati in quarta. E l'obiettivo di Sounds for Children non è quello di formare dei nuovi musicisti, ma di educare i bambini a vivere bene, a vivere bene, scoprendo i valori naturali della musica, no? Perché noi, quei Baronna, lo sanno, anche te, sei un appassionato di musica, mi ha detto che non so quanti dischi hai a casa, una follia. Però insomma non consideriamo che la musica ha con sé dei valori che sono importantissimi, fondamentali, il fatto che abbatte tutte le barriere religiose, politiche. È il linguaggio vero internazionale. Sì, se poi consideriamo che ci sono 2 parole chiave per poter interpretare il nostro futuro, lo dico sempre, che sono integrazione e multietnicità. Il nostro paese si deve convincere che diventerà multietnico, così come lo è diventato la Francia, che è un paese per certi versi molto più evoluto del nostro, proprio per questo. Sì, cioè, non dobbiamo vivere la multietnicità e il fatto che arrivano gli emigranti come un nostro limite, ma come un probabile vantaggio per noi. I nostri governi devono riuscire a insegnarci anche farlo nel modo giusto, per cercare da lì lo startup. No, beh, deve partire. Entreremo però in un discorso che non voglio affrontare, no, ma noi sappiamo Cruciani, che qua abbiamo problemi in città fra romanisti e laziali. E infatti io dico sempre, si vive in una società multilaziale, bisogna accettare. C'è quest'altra realtà, insomma, certo, è un'altra accettiamo. Realtà. Accettiamo. Quindi se queste sono le 2 parole chiave, e sono 2 parole che fanno parte proprio della musica, cioè la musica è vincente sotto questo punto di vista, proprio perché è multietnica ed è aperta a tutti, è un linguaggio universale. Cioè tu immagina che già nella nostra comunicazione linguistica, no? Noi parliamo tutti e 2 italiano, certo. Però se parliamo insieme, proviamo a parlare tutti insieme, ognuno può dire quello che vuole. Proviamo, guarda, se noi andiamo assieme, questa è una prova che a voi Sanato mi va fatta, continuate, sentite. Mi ricordo quando guadagnavi prima. Stop. Ecco, questa cosa con la musica la puoi fare. Certo, con le con parole. Il linguaggio no. Oh, e quindi due strumenti insieme possono lavorare in unisono, possono armonizzarsi, possono dialogare e si possono ascoltare contemporaneamente. Con la voce questo non succede. Tu fai pianoforte, tu che altro strumento fai, Luca, con la bocca? C'è il violino, c'è il violoncello. Allora, fammi un violino, no, ma... fai il pianoforte, vediamo che succede. Non può venire. Non può... Caspita, vai. Sembra più la sega quella dei film horror, sai quando suonavano. Bello, vuoi che io ti legga qualcosa di questa presentazione? Sì, tanto per convincere gli amici, ecco, dice ma c'è un fondamento scientifico in tutto ciò? Sì, intanto sì, chiudo, sì, perché voglio dire, noi non vogliamo formare dei musicisti, ma vogliamo educare con Sounds for Children, quindi con musicisti. Non è un talent per bambini, non è una scorciatoia. No, questa è una cosa seria che è diventata operativa per l'UNICEF e adesso tutti i comitati italiani sono attivi su Sounds for Children ed è per questo che io parto in tournée con questo progetto a partire dal 29 di marzo per promuovere e divulgare questa iniziativa. Fermo lì, facciamo parlare la musica, invece senti se la riconosci, presentala tu. Cos'è? Eh sì, questo è Led Children, il brano che ho scritto proprio per supportare Sounds for Children dell'UNICEF. Allora, ascoltiamo. La voce, ascolta, è di Ben Sidran. Senti questo spoken word di Sidran. Vai. In spite of yourself, you can spend your life tossing coins in the fountain of time. You can spend your life wrapping string around paper, or spend your time trying to make it unwind. But you can't go where your children are going, and you cannot know what your children will find. And they're not your children for more than a moment, and you cannot go with them on their infinite climb. Let the children già nel 1964 Alan P. Merriam, nel suo libro The Anthropology of Music, elencò le funzioni primarie della musica: espressione delle emozioni, piacere estetico, intrattenimento, comunicazione, rappresentazione simbolica, reazione fisica, consolidamento della comunità e delle relazioni sociali, convalida delle istituzioni sociali e dei rituali religiosi, contributo alla continuità e stabilità culturale, contributo all'integrazione della società. Ecco perché è importante la musica nelle scuole, perché educare i bambini a fare musica insieme, ad ascoltare musica insieme, li aiuta a sviluppare naturalmente il piacevole senso di unità. Quello che ci unisce è la nostra vera forza, quello che ci unisce è il nostro valore, quello che ci unisce è la musica. Un giorno, pensando alla musica, Victor Hugo disse: «La musica esprime ciò che è impossibile da dire, su cui è impossibile tacere». Vorrei tacere per farvi ascoltare questo sax fino alla fine, ma dobbiamo dare la parola all'altra parte della trasmissione con un po' di pubblicità, ma torniamo immediatamente. Grazie, a tra poco. Voice Anatomy e Sound for Children. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, stiamo navigando attraverso le emozioni, ma soprattutto le emozioni che sta regalando Gegè Telesforo e dà queste grandissime possibilità di amare la vita attraverso la musica, perché sì, quello è. Ma poi con questi bambini ho imparato io tante cose proprio. Eh sì, diventa un rapporto osmotico, strepitosi, vero? Il primo incontro è stato molto difficile, molto, molto complesso. Le maestre erano disperate perché una classe di ragazzi, ecco, fra virgolette, allegri. Di che, no? Che anno vanno? E io inizio a terza elementare, quarta elementare, però il progetto è rivolto proprio al target, quello tipico dell'UNICEF, che va quasi da 0 a 17 anni. 17 certo. Anni. Sì, è vero, hai ragione, perché queste cose qui le dovremmo insegnare prima a noi, ai nostri amici. Formare, no? I formatori, guarda. Sì, esatto, è così. Così. Arrivano bellissimi messaggi, c'è uno lunghissimo, che benefici della prestazione di Dee Bridgewater nel brano New Orleans. Per me è spirito puro e possessione, pianto, liberazione, dolore, pazzia. Ma chiunque ha fatto ascoltare tale brano ho notato disagio, insofferenza, addirittura le stesse espressioni scandalizzate che notavo nei vecchi degli anni 70 quando gli mettevano un pezzo di Evangelion col suo falsetto. E cioè queste sono... Amico mio, frequenta, che, non frequentarli più. Non frequenti le persone giuste, mi sa. Esatto, chi gira si gira dall'altra parte sentendo queste persone come Abby Lincoln, un'altra che non c'è più, ma siamo a livelli altissimi veramente. A proposito di livelli altissimi, perché ho chiamato i Baronna? No, la tua schizofrenia che devi chiarire. La mia follia e che siete bravi. Noi tanto staremo a maggio insieme, manco facciamo pubblicità perché abbiamo la gente. Diciamolo, siamo ad Ancona, a Napoli e al Teatro Olimpico. Stadio, ancora non ce la facciamo. Ancora non ce la facciamo allo stadio. Non ci riesco. Vabbè, ma non è quello il nostro ambiente. Non c'entriamo niente. Il teatro ha una sua magia, dai. Sì, anche quando sono 10 persone è come se ci fosse tutto il mondo. Mettiamo le mani avanti, ragazzi. Ma guarda che già studio sold out, ti devo dare questa... Soldato che è un soldato. Senti, soldato, che regaliamo a Gegè? Facciamo un pezzettino. Tanto Gegè poi si infila sempre, questa... anche Luca se vuole. Sì. Osaracino, partenopeo, bello vaglione. Osaracino, tutte femmine la fanno ammurare, e belle facce, e buone cuore. Sava fa amore, e malandrino, e tentatore, se ho guardato la fanno ammurare. Insieme, Osaracino, bello vaglione, c'è nella faccia, bello cuore. Osaracino, se come la fanno ammurare, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, se riesci a dire, Ragazzi, senti, mi servono quattro professori a scuola, scusa. Mi servono, no? Ma loro possono venire con me quando vogliono. Ma no, devono venire, sono precedenti. Devono venire, tra l'altro. Se no, per loro sito... l'avventura teatrale finisce qui. Guarda, approfitto per dire una cosa, Pino. Nel sito dell'UNICEF Italia, unicef.it, adesso fra un po' sarà operativa una pagina proprio di Sounds for Children. E ci sarà la possibilità proprio per gli amici musicisti, ma anche tutti quelli che vivono il mondo e la realtà dei bambini, dai pediatri a non so, possiamo fare una foniatri, joint venture, eccetera. Si possono iscrivere, fare la loro richiesta, e quindi quando poi nei vari comitati locali ci sarà il bisogno di operare nell'ospedale pediatrico, reparto di oncologia, oppure nella zona dei terremotati, a destra sì, campi dei profughi, Rom e via dicendo, allora noi avremo un database con tutti i nomi dei professionisti che parteciperanno a questo progetto, secondo me fantastico. Ragazzi, io fantastico. Non so cantare così bene, però voi sì, e potete andare. Io posso fare Word for Children, cioè la parola bambini, pare poco. No, ma tu devi venire. Tu a parte la musica, cioè, il momento ludico dei bambini. Io guarda, ti porterò con me, Pino. Vengo. Io lo so che tu sei attivo, io ho anche lavorato per la tua organizzazione. Sì, no? Però se vieni fai un'esperienza fantastica. Assolutamente sì, mi insegneranno a cantare loro a me, mi insegneranno che cosa significa la musica. Vedrai. A proposito di Osaracino, tu Pino Daniele come stai combinato, Luca? Ma mi piacerebbe sì ricordarlo. Grande. Non smettiamo mai di ricordarlo. E questo già è partito. Cioè, se tu fossi qui, adesso io saprei come fare. Oh. Ah, pure la tromba. Se tu fossi qui, mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Eccolo là. Caro Gegè, la Francia è talmente avanti con la sua società multietnica che un giorno ha una sommossa. Ah, però dicono che hanno delle sommosse. Vabbè, ma c'è il nome di Allah, cioè, da questo succede un po' dappertutto. Ragazzi. Non strumentalizziamo questa cosa, insomma. Comunque, ci sta chi appoggia, ovviamente, tutto quanto ha i suoi risvolti, sì, eccetera, ma a parte ma non queste è quello, cose qua, no, dai. Perché voglio dire, i terroristi, i delinquenti, i banditi stanno in tutto il mondo, ce li possiamo ritrovare noi in Italia senza problemi, cioè, lo sappiamo, cioè, no? Non è che chi mette sotto la gente sulle strisce c'è solo un'identità. Da un punto di vista culturale e artistico dobbiamo ammettere che la Francia sta un passo avanti a noi sotto tanti punti di vista, lo diciamo. Guarda, sempre questi microfoni artisticamente ma nell'organizzazione, non nella gestione. Noi siamo gli inventori della bellezza, della cultura, dell'arte e della musica. Guarda che fine abbiamo fatto. Non siamo riusciti a gestire tutto questo, no? E lo stiamo distruggendo. Parigi c'ha un monumento rispetto a noi. Uno. E campano di prepotenza. Però sono attenti in questo. Il cinema è multietnico e fanno dei film straordinari. Perché? Perché ci sono delle leggi che agevolano. Vuoi fare i film? Bene, il 60% devono essere francesi, il 40% possono essere d'oltreoceano, ma una percentuale degli incassi va al cinema francese, per cui puoi dare la possibilità a un giovane regista, esatto, di cimentarsi, esatto, in un film, magari che venga fuori Quasi Amici o altri film, esatto, di questo genere. Noi, stessa cosa invece, nella musica, eh? La stessa cosa sta dicendo nella musica, è la stessa cosa, per cui stiamo analizzando dal punto di vista sociale, che sicuramente ti arricchisce. Quando una nazione si arricchisce culturalmente, un gruppo è ricco culturalmente, non fa guerre, non fa lotte. Poi il folle sta dappertutto, sta allo stadio, sta in una discoteca, bravo, sta dentro un cinema, sta per la strada. Io incontro tante persone, migliaia di persone che mi salutano, mi ringraziano, ne trovo sempre però qualcuno che esagera, ma è uno, due, tre, e certe volte per colpa di questo si massifica. E come i dottori, sì, c'è il dottore che sbaglia a far nascere quel bambino e magari lo ammazza per sbaglio, ma ci dimentichiamo che altri dottori hanno fatto nascere 2360 bambini l'altra settimana in questa città, di cui 300 sono stati salvati dai medici. Ecco, questo è l'orrore che ogni tanto si trasmette alla gente, e arriva la gente già arrabbiata negli ospedali, già arrabbiata ai posti di polizia, già arrabbiata per la strada. Ci dimentichiamo di questo, parliamo anche dall'altra parte, che non è il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, è tre quarti pieno. Purtroppo una persona fa più male di mille, certo. E allora si rischia di fare qualunquismo, populismo e discorsi da bar. Vabbè, ma non vogliamo cambiare radicalmente i pensieri di nessuno, qui vogliamo accompagnarvi, è la voce, ve lo dico sempre, l'elemento di comunicazione più importante che esiste al mondo, più del corpo, più di qualsiasi altra cosa, lo sapete. È lo strumento primordiale, è quello che noi dobbiamo imparare a scuola, questo devono mettere a scuola. Beh, a io tutti, questo è quello che insegno a scuola, musica, ai bambini, ma lo devono insegnare a tutti, perché io domani parto proprio dal protolinguaggio. Sì, la base. Il protolinguaggio è quello primordiale, sì, quello proprio, sì, dell'uomo primitivo. Si parte da quello. Quello è il metodo migliore per iniziare una comunicazione. Il tam-tam primordiale, i due strumenti fondamentali. Tam-tam primordiale e il protolinguaggio. Ne parlo spesso perché intanto mi diverte l'argomento, e poi ho fatto anche convegni sull'argomento. Tra, sì, l'altro, sì, con sicuro, un tuo carissimo amico che è Diego Cossu. Cossu, un grande siamo andati a fare, mi hanno invitato a fare un convegno sulla balbuzie proprio anche per i bambini, e quindi io ho raccontato questa cosa del protolinguaggio e mi sono molto divertito. No, poi, è vero, poi poi fonemico, esatto, poi tu con lo scat, sì, è meraviglioso. Pensa che io sono riuscito a farne quasi un'attività lavorativa, un lavoro vero. Com'è la differenza, però torniamo un attimo poi sulla voce, proprio un excursus sulle differenze che intercorrono proprio tra voce cantata e scat, di cui sei un abile esecutore. Dunque, va bene, intanto la voce cantata, quella contemporanea, richiede una tecnica, un'impostazione, una metodologia che ti porta a cantare con una voce naturale, cioè tu devi cantare con lo stesso tono della voce parlata, no? Certo. Quel tipo di impostazione, al contrario invece del mondo lirico e del mondo classico, che richiede una voce impostata. Com'è Pavarotti, Luca? Miserere, questo è Poveretti. Attento al microfono. Ora, dovresti farlo col palato molle sollevato. Se lo fai col palato molle, ce la fai a tirare su il palato molle. Così è ingolato. No. C'è chi c'ha de molle? No, Vito Caporale c'ha altri discorsi. No, basta che tu fai per... Bene, qua già ci siamo di più. Se la voce la come se tu dovessi fare uno sbadiglio, no? Sì, lo senti che si solleva il palato? Prova a fare lo sbadiglio. Il palato. Cambia. Senti, capito? Che lui ha cantato questa canzone per la Juventus, vincerò, ha vinto sempre, e lui è del Milan. Ah sì, eh? Sbagliato proprio. L'hanno chiamato così, se mi chiamassero a cantare Roma, Roma, Roma, che no, magari vince sempre, come ammazzano quegli altri. No, vabbè, sempre 0-0 dall'altra parte. Ma guarda come è felice Valerio. Scusate i momenti goliardi. No, figurati. Caliamo. Quindi, torniamo al palo molle. Quindi, intanto questo: lo sket è un utilizzo particolare della voce, ovvero sillabare parole senza senso fraseggiando come uno strumento. Il che significa che a ogni sillaba che tu canti assegni una nota, no? E quindi devi sviluppare il tuo fraseggio musicale così come lo fanno i musicisti, studiando armonia, ascoltando molto e mettendolo in pratica. Noi dovremmo fare una cosa, ma dobbiamo andare un attimo in pubblicità, vero sì, Valerio? Prego, siamo 28, prego. E poi facciamo un esempio pratico. Certo. Siamo qui, abbiamo un pianoforte. Certo. Caporale è pagato per questo. Ah sì? Sì sì. Poi ti dirò come. Ma vabbè. A tra poco, poi sanatomi. Tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati, 16:32 primi, una manciata di secondi, Voice Anatomy insieme ai Barona, Luca Virago, grazie per il tuo apporto vocale, ma soprattutto grazie Gegè Telesfero per questa bella avventura che ci stai facendo. Questo è proprio, tu sei il core business di questa trasmissione. Grazie, Voice Anatomy, no. È questo, come i Barona lo sono dal punto di vista musicale, di armonizzazioni, è pazzesco. Vi state mettendo d'accordo? Stavamo parlando della differenza fra il suono cantato e fra lo sket o lo scat, sì. Sket, meglio sì, sket. Praticamente lo sket è l'evoluzione del canto, nel senso che l'improvvisazione vocale, quello che fanno i musicisti. Il musicista prima esegue la melodia, la interpreta con il suo strumento, stessa cosa fanno i cantanti. Poi ci sono dei cantanti che, conoscendo l'arte dello sket e quindi dell'improvvisazione vocale, si lasciano andare alle loro improvvisazioni. Ogni tanto Lucio Dalla qualcosa svolazzava. Beh, Lucio è stato forse uno dei primi in Italia a utilizzare la voce. E la cosa forte dello sket, che è comunque ironico, no? Quindi certo. Ci deve sempre essere una base di humor. Nella vita, deve essere dappertutto. Il divertimento ci sta dappertutto. Ma anche nella musica. Che non vuol dire che uno deve ride quando fa una cosa seria. Se uno opera il cuore, non è se uno mette. Sì, però se deve divertire, gli deve piacere. Infatti, io penso che il nostro sia un lavoro serio che va fatto col sorriso. Certo, assolutamente. Mi fate un esempio. Di sket? Di sket, volevamo fare un pezzo blues, magari in fa. Sto facendo il figo perché durante la pubblicità si sono messi d'accordo. E allora ho fatto il figo, però io non sono capace a dire bugie. L'hanno detto loro. Blues in fa. Sì, eh? Cioè, far blues. Che devo fare? Vado io direttamente? Che ne so io? Guardatevi voi, io non so che dirti. Yeah. You know my baby came to vai, vai, fai, fai il tema, fai il tema. And I know my baby came to say love. I don't want to do, you know my name. I wanna do your bed, my bed, your phone. Boom, boom, boom. I wanna lose your bed, your home, bed, your phone, but your name, your mom. Non ho capito niente. Sembro arbore. The so dead with the bar. Leo badi do do papo da pun da do babi pun di do supleo do bui pano pa le de bo bui pano bo su do pe so da da blio pleo bo bui pano do bo ba su te ke yo o do mi di di za o do mo mo be za o Pino. Allora, sembra il libro della giungla. No, ma ti posso far fare il Mumbles, lo conosci? Ma continua maestro. Mumbles è il mugugno di Clark Terry, è bello, è una esternazione, è praticamente un gramelò appena intonato. Ti faccio e poi vai tu. Certo. Un po' di Armstrong. A Radio 24 ci si ubriaca dopo le 4. Vai. Don't the Guido. Yeah. Certo, mancava pure la roba. Ah, miracolo. È arrivato Gillespie, è arrivato. Vai, vai Gillespie. Vai, dici. Finale. Se ti parlo babbe, posso ti parlare di te. Beh, che bello, l'ultima puntata di Voice Anatomy, applauso, così applauso, applauso, senza applauso, applauso. Applauso. Beh, dai, non era male, cioè yeah, in radio, in una stanza neanche così grande, riuscire a scattare in questa maniera è bellissimo, bellissimo. Ma che bella storia, ma che bello, mi piace, mi sono sentito anche un po' cantante americano per un attimo. Ma fatto... bellissimo, sì, sì, si chiama, si chiama culo. Questa, voi attori lo chiamate così? Sì, si chiama così. Voi attori lo chiamate. Ma no, io no, se questo lo inseriamo nello spettacolo. Sì, no, no, Vito lo sa che se io prendo la nota giusta la porto avanti fino alla fine, ma se prendo quella sbagliata mi pongo indietro come vuoi, non la drizzo più. Vabbè, però la famosa One Note of Samba. Esatto, One Note of Samba. Ti ringrazio, quella so in effetti. Senti, ci ripeti le date, GG, di questa avventura con Soundful Children? Mamma che è mia, importantissimo. Spero di ricordarmele tutte. Il 28, là abbiamo delle, il 29, delle, dunque il 29 partiamo da Perugia. 29 a Perugia, Perugia, dove? 29, ovviamente si chiama marzo. Bad marzo, King, eh? Bad King, il 29 marzo. Okay. Il 30 siamo a Roseto. Quanta degli Abruzzi. Quanta gente c'è in scena? Ah, dunque in tournée siamo in sei sul palco più l'ingegnere del suono, poi però quando arriveremo a Roma il 5 di aprile all'Auditorium Parco della Musica la band diventerà una cosa veramente importante, perché ho coinvolto alcuni fra i miei migliori amici che sono anche fortunatamente alcuni fra i migliori musicisti del mondo. Ecco perché non ci sono, non fra i migliori amici, magari posso considerarmi un amico di Gigi, ma non ci sono. Vabbè, però fra i migliori musicisti adesso del dopo mondo. Questa performance. Beh, potresti salire e fare il mambo. Ma perché tu fai quello? È una specialità, io ti faccio vedere il video, scusa, cioè, se mi ubriaco vengo potete così. Trovare Mumbles con Clark Terry e John Hendrix, te lo faccio vedere, e faccio io sono vedere come maestro. Loro come John Hendrix, sei come Clark Terry, è come vero. Clark Terry. Molta gente senza me lo tromba dice. Però senza tromba, ma infatti io no. Niente tromba. Senza tromba, vabbè, non lascia sala ma spettacolo, ti prego. Allora finisco di dire qui. Dimmi, così esatto. Ci leviamo il pensiero, no, primo di aprile siamo in un piccolo auditorium a mattinata, tra l'altro vicino casa, in provincia di Foggia, il 31 marzo a Cava di Terreni, uno dei miei club preferiti di jazz in Italia, poi 5 di aprile Roma, Auditorium Parco della Musica, 6 aprile a Bologna, Bravo Caffè, 7 aprile Ferrara, bellissimo jazz club il Torrione, e chiudiamo al Blue Note di Milano l'8 di aprile. Beh, bel percorso, dai. Faremo grande musica perché i musicisti sono fantastici, la musica è buona, lo garantisco, poi c'è una guest americana che è una giovane vocalist. Sì, forse tra le più quotate, no, è tutto. Fantastica. È con la voce. Proprio hai il dono, the gift. Quando apre bocca, tutto diventa bello. Può cantare anche One Note of Samba con una nota, con una nota sola, tra un brano me. Bellissimo e anche difficile da cantare. Ma apre bocca ed è stupendo. No, non è come qualcuno come me, apre bocca e gli dà fiato, come si dice a Roma. No? Questa apre bocca e invece riesce a mettere in fila qualche nota interessante. Sì, sono quelle persone che con la semplicità rendono tutto bello, tutto vabbè, insomma bello, poi è una quella. Musicista completa, perché la cosa di oggi è che i cantanti devono essere e devono essere considerati dei musicisti. Una volta non era così, il cantante faceva il cantante e basta. Imparava la melodia, aveva una bella voce e cantava. Oggi non basta, cioè non basta avere una bella voce e cantare quella melodia, devi conoscere il tuo strumento, ecco. Perché si dice, perché devi andare a lezioni di canto? Non perché devi imparare a cantare meglio, ma perché devi imparare a gestire il tuo strumento. È una cosa, c'è, cioè, uno che canta bene a casa e uno che canta bene in tournée, che significa che deve cantare bene tutti i giorni. Tutti i giorni. Ma noi diciamo, la voce va insegnata a scuola, l'impostazione vocale, il coaching va insegnato a scuola, a scuola, a parlare italiano. Poi tu sei foggiano, parli foggiano con i genitori, con gli amici, io parlo romano con gli amici, salvaguardare i dialetti, ma va insegnato l'italiano, uno, due, l'impostazione vocale, perché quei bambini domani saranno professori che non dovranno avere il nodulo dell'insegnante, non dovranno avere il polipo del cantante, dovranno Bravo. Saper gestire queste due cose. corde vocali che serviranno per comunicare. Esatto. Che è la cosa. Saranno grandi manager, saranno presidenti, senatori, onorevoli. Io non li posso più sentire, ognuno parla col suo dialetto e ci devo spiegare le cose. Che va benissimo, va salvaguardato il dialetto. Ma non in quella maniera. Tu devi parlare italiano, farti capire, muovere le folle. Tu pensa se Brevard faceva che c'è la libertà! Allora c'è la cosa che va bene! Però faceva un incasso al botteghino. Davo lì a Foggia, a Bari faceva l'ira di Dio, a Roma. E come il signor Danelli faceva, c'è sempre il giorno dei scudi, ma non è questo il giorno, nuovo fa, non si può fare. Un leader, un vero che tuona dal pulpito, deve trascinare le persone nel modo giusto, lo devi insegnare a scuola. Guarda che Zalone. Capito? Ma lui è straordinario. Quello è uno degli esempi in cui il tuo dialetto, la tua vita, la tua storia, la puoi trasporre, portarla, e io ti amo. Lui ha preso il posto, il parcheggio che ha lasciato libero Troisi, l'ha messo là dentro Checco Zalone, che è straordinario, veramente intelligente. Io ci casco ogni sera che fanno una replica di quel film, ma vedo sto pezzo e poi basta, no, vado avanti fino alla fine come Blues Brothers o Frankenstein Junior. Esatto. Devo dire che viva Dio che c'è, ci sono persone come Medici, lui, come si chiama lui di nome e cognome vero? Non mi ricordo, perché Checco Zalone ormai è rimasto quello, ma c'ha un nome e un cognome normalissimo, che vabbè, anormale il nome. Tra l'altro io l'apprezzo molto perché è anche un bravissimo pianista. Luca Medici, ecco, canta bene e suona bene. Sì, bravissimo. Sì, bravo, molto bravo. No, lui mi ha fatto mandare un messaggio da mio nipote, che si è ritrovato a, non so, a fare che cosa, dei cori in una parte della colonna sonora dell'ultimo film. E mi ha detto: dilla a tuo zio che la smettesse con sto jazz, di fare un po' di paraculate come me. Intelligente, veramente, a libero Silvio. Senti, abbiamo un altro brano tratto da quest'ultimo CD del mio amico Gegè. Questo come si dice? Ah, questa è una versione. Ah, Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff. La voce, una voce fantastica. Moses Patrol, sempre da New York. Beh. Bella questa versione R&B, funk, se ci mettevi pure le trombe dei Tower of Power sotto, poi sai che qua ci ho messo un ragamuffin, l'ho fatto in foggiano proprio. Ma dai, sì, fra un po', dopo la seconda strofa ho fatto un ragamuffin foggiano, che poi pure il foggiano completamente diverso, ma le lingue in Italia sono meravigliose, perché sono lingue. Tu vai a Bari una cosa, a Foggia un'altra, a Brindisi un'altra. Beh, ma anche nella provincia, nella com'è provincia Foggia? Di Foggia anche, cambia anche cambia a distanza di 30 km. Infatti io l'ho detto, ne parlo spesso col mio amico Arbore, no? Con Renzo, certo, che dobbiamo unificare la Puglia con un esperanto pugliese, che è questo, un po' questo qua, questo tipo di accento che deve unificare la Puglia. Che molto, è bello, perché fa tutto semplice, che va tutto bene. Va tutto bene. Con Giufoli chiedemmo a Bari, dico: ma scusi, il teatro team dove? Allora, prendela a complanare. Io già non sapevo che era a complanare. Sì. Non la prima, non la seconda, la quarta. A terza c'era. Vabbè, sentiamo, senti, un po' ragazzi, lo scherzo. Senti, io, one day yo, some mama sweetie yo, mamma do si do do you mama mama sweetie day yo mom we know. Foggiano. Window, window, window, sembro io questo. Window, passo di day yo, the day yo, do su mama mama. I Shot the Sheriff. Bene, andiamo in pubblicità per avventurarci nell'ultimo blocco insieme, gli ultimi 10 minuti. Ci collegheremo con tutti i convocati, l'amico Capuano, che quest'anno non è vero che è mai una gioia, perché ogni volta mi ha dato delle gioie. Ora non ho ancora segnato, mancano 6 minuti. Colleghiamoci immediatamente con Capuano e magari porterà in gol la mia squadra. Dai. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it. Vi presento Boys Anatomy. Non è l'ultima puntata, io l'ho detto perché stavamo facendo un gran casino, bello, un casino organizzato, devo dire, l'ho detto, è bello, l'ultima puntata perché ci chiuderanno qui. No, era un gioco ironico, ovviamente. No, andiamo avanti, fino a luglio si va avanti, poi dopo insomma andrò io a vivere a casa di Gegè, se lui continuerà o lui verrà da me se vanno chiude lui, insomma ci sarà uno smosi. Puoi venire, così fai, esatto, anche il programma con me, tra l'altro, esatto, io questa sera alle 19:15 sono in onda col soundcheck. È vero, col soundcheck tu stai lì e mo me fai continuare fino a stanotte tu, Gegè, non ce la faccio, come si dice, non ce la faccio in Foggian, che è più stretto il Foggian, no? Sì, molto stretto, ma ti deve cambiare anche l'espressione. Certo, perché se... Come... Devi iniziare prima con i preliminari, scalderà. Prima questo gutturale di sì, ma ti deve l'espressione. Ecco, vedi, col ghigno. Dove sarò Robert De Niro? Questo sembra aggressivo. No. Invece no, significa come stai? Stai bene, tutto a posto a casa. Da una parte all'altra se della strada. Se cambi l'intenzione anche lì, poi fai che mi stai a piappare il culo. Se invece è vero. Sì, basta il sorriso. Non è male, pure che Gonzalone è covato, infatti racconta una cosa del genere. Ma infatti sono suoni, quello è il suono, quello dice primordiale, il protolinguaggio. Io da là vengo. Ed è quello io. Pensa che ancora Vito Caporale deve uscire. Il potere della zolla. Io sono ancora nella lallazione. E voi state nella lallazione, dai. Ci siete. Luca, che mi regali con la tua voce? Il palato molle, ok, l'abbiamo trovato. C'era un ragazzo. Chi è? Aspetta. Che come me. Quando Siris. No. Ero Stone. È un Morandi. Era il mondo. Yeah. Veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé. Mi sono cresciuti pure. Aveva mille donne. Me l'ha passata Gegè. Cantava El e Ticket to Ride. Lady Genoa, yesterday. Questo è un po'. Sì, questo Reitano. Reitano e Peppino di Chiari. Si è trasformato, sì, proprio. Sì, sono ma volutamente, però. Ah, si è andato su il grande Mino. Madonna, quanto mi dispiace. Cammino, io ho negato di essere capitano. Abbiamo fatto Roma Lazio attori. L'ultimo anno che c'era Mino, lui diceva: Mino, mi fai fare il capitano? E ho fatto: Mino, sei calabrese, io pure di origine, io sono della Lazio, sto a giocare all'Olimpico, sono capitano. Se non mi puoi chiedere questo, no, è come se gli dici a Tom Cruise, me la dico il Kidman stasera, tavo, dai. No. Ho detto: scusami, non posso, mi dispiace, adesso che fu l'ultima volta, vabbè, ma questo ci ricordi belli con grande Mino, persona sempre di gran cuore, cantava sempre, comunque in bastava dire una cosa lui cantava, gli partiva la brocca, era strepitoso. Senti, amico mio, abbiamo il collegamento con Capuano? Ce l'abbiamo. Oh, Capuano, dammi una gioia, ti prego. Allora, la Juventus sta vincendo 1-0 Marassi contro la Sampdoria. Vabbè, non è una novità. Gente, quadrato. Siamo agli ultimi istanti di partita. Chi nasce tondo non può morire quadrato. No. Tra l'altro è una partita, insomma, che la Sampdoria poteva anche pareggiare, perché ha avuto alcune occasioni propizie. La Juve ha avuto anche tante occasioni per andare al raddoppio. Buffon è da oggi il giocatore con più minuti in campo in Serie A della Juventus. Ha superato Boniperti. Mamma mia. Quindi insomma, neanche oggi è una domenica che entra nella storia. 2-0 fin qui dell'Atalanta sul Pescara, Gomez, ecco. E Grassi. 1-0 ha appena segnato la Fiorentina a Crotone, gol di Kalinic al 90esimo. Ma sempre segna al 90esimo la Fiorentina. Sì. Era successo anche settimana scorsa in casa. Certo. E poi c'è Bologna-Chievo 3-1, vinceva 1-0 il Chievo con Castro, poi Verdi e doppietta di Zemaili. Alle 12:30 la vittoria esterna del Napoli 3-2, con doppietta di Insigne e gol di Mertens. 3-2 addirittura, aveva lasciato 3-0. 3-0, poi nel finale c'è stato il gol di El Kadouri, il rigore di Maccarone, ci sono stati 10 minuti di paura. Appena sentito intanto il 3-0 l'Atalanta, paura per i tifosi del Napoli. E Immobile ha segnato adesso, no? 3-0 dell'Atalanta sul Pescara, ha segnato ancora il Papu Gomez, che con questo è autore di una doppietta. Poi alle 18 ci sarà Udinese-Palermo, alle 20:45 Roma-Sassuolo. Ieri Torino-Inter 2-2, Milan-Genoa 1-0. Vero. E niente, noi ci sentiamo dopo le 17. Capuano, c'è una cosa, io lavoro tutte le domeniche, dammi una gioia, 0-0, niente. Guarda, la gioia che ti posso dare è che è un paio di minuti fa Padoin praticamente solo davanti al portiere ha tirato fuori. Meno male, va bene, grazie Capuano. State 0-0. State benissimo, come dicevo. Ma non è ancora finita. Certo, se vendiamo quello che ci entrano nelle tasche 30 milioni, ma chi? Cioè, ma il tifoso si frappone col presidente, oh, quindi ci danno 40 milioni, io porto un braccio, ma non ti danno a te. Vabbè, ma comunque, Capuano, buona trasmissione. Ciao. A tutti i convocati, grazie. Ciao, amico mio, ciao. Ebbene, signori, come tutte le cose belle finiscono, poi ricomincia Gegè. Se volete continuare a casa sua, beh, ci vuole un po' il tempo di arrivare in studio. Dov'è lo studio? In che zona? In Prati? Dove stai? No, devo fare un po' di chilometri in campagna, nel verde. Assuti. Beh, ma la musica, l'ispirazione lì viene, no? Ma tu vivi lì, da quelle parti? Io vivo da quelle parti, sì. Sì, non è mica una cosa, cosa bella. Non credo che interessi alla gente. Mi interessa, no? A me. Posso utilizzare la mia trasmissione per veicolo privato ogni tanto per chiedere se come vuoi, stai? Sì, a casa? Tutto a posto. Luca Virago. Tutto a posto. No, che mi fa il calabrese, quel catanzaro. Cioè, mi vuoi salutare in qualche modo, Luca? C'hai una voce? Domenica ti porterò sulla Eros Ramazzotti. No. Domenica ti porterò sulla Eccolo. Grande Fabio Concato, che io voglio ricercare. C'è il numero di Concato? Devo ricercarlo, Fabio, una persona strepitosa. Continua, la domenica bestiale. Tre sarà più dolce. No, oh, fai Fabio. Faremo un giro in barca. Possiamo anche pescare. Vedi, cambia pure la bocca. E fingere di essere sul mare. Wow. Sapessi, amore mio, come mi piace. Yeah. Mm. Partire quando Milano dorme ancora. Che canzone bella. Me ne fate tante. Per la sonnecchiare. Sono io. Sono prima io. Che cominci a correre, ad urlare. Tutti. Che domenica bestiale, una domenica con te. Grazie. Ogni tanto mangia un fiore. Ma quello no. Lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Grazie, ragazzi. Immagino sia dedicata a questa domenica. Barahona, voi con che cosa mi salutate? Allora, volevamo fare. No, con un ciao. Se volevamo fare un pezzettino, ciao. Un omaggio a Woody Herman. Ha scritto una cosa per quattro sax. Four Brothers, i quattro sax. E noi abbiamo utilizzato questi soli strumentali per farne un brano in napoletano, un pezzettino brevissimo. Sì. Ma il tema? Il tema l'hai fatto in napoletano? In napoletano. Ma che meraviglia! È vero. Come viene nato messo tutto spacca niente da separare una furia, una festa a te voglio che niente per scombina e che non ce l'ha fatto cura se tu vedi qualcosa che sta a passare posso trovare una scusa, una cosa se fosse fissoso non potesse là per vivere felicità. Four brothers, four brothers, four brothers sarà voi e canta. Four brothers, four brothers, four brothers non c'è sta niente. Fantastico. Cioè, Gegè come in Neauto, ricordate il film che non riesce, lui si deve controllare, sì. Lo comincia I Will Survive e lui non devi ballare. E quello non gliela fa più e parte no. Così Gegè guarda e poi gli parte proprio, come sì. Sente anche un clacson per strada, lui scende e fa lo sai che questa cosa della beatbox, no? Del fatto di fare la batteria con la voce, io credo di essere stato veramente uno dei, oramai sono considerato un patriarca, tant'è vero che fanno i meeting di i beatboxer e vengo ricordato come uno dei pionieri del è vero, genere. È vero, è così, adesso se ne parla tranquillamente, abbiamo avuto ospiti anche noi, questi rapper, beatboxer, eccetera, ma tu sei stato il primo. Sì, la cosa è che io mi concentro proprio, suono veramente la batteria quando lo faccio, loro fanno i groove, no? Io mi metto lì. No, non state bene. No, infatti, no, ma quando ragione. Lo facevi noi eravamo bambini. Ma sta zitto, ho detto già come stai. Luca Virago, grazie di essere venuto. Grazie, infatti, questa grazie bella a voi, passeggiata. È stato un onore per me. Un onore è stato per noi. Barona, voi vi ringrazio, ma siete come fratelli ormai. Siete four brothers, veramente, per quanto mi riguarda. Sì, grazie. Grazie a te. Ricordaci, hai quattro professori in più che vengono. Grazie. Sì. Ci vediamo a Roma il 5. Il 5 di aprile, poi tutta la tournée, le informazioni anche sul sito dell'UNICEF le trovate. Sounds for Children. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, chiudiamo, grazie a Radio 24 che è media partner del progetto. Assolutamente, grazie Valerio, grazie Alessia, grazie Mauro, grazie Rachele, grazie anche a Milano per la messa in onda. Ciao, la parola a tutti i convocati. Grande Pino, grazie. Ciao.